si può fare. L'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. 18 e 7 minuti, buonasera, buon venerdì a tutti cari ascoltatori. 800 24 00 24, staremo insieme anche questa sera fino alle 20.30 con i vostri interventi, cominciate subito a prenotarli. Potete anche stare in nostra compagnia tramite il nostro account Twitter, chiocciola si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi. Oggi cerchiamo anche un personaggio della settimana e vogliamo il vostro aiuto. Chi indovina si porta a casa i biglietti per la mostra di Andy Warhol a Roma. Il primo indizio per il nostro personaggio, lo dico subito così cominciamo a scatenare le telefonate, è che il personaggio è legato ad una notizia di questa settimana, come sempre, è molto vicina a un capo di Stato. Sapore di sale, sapore quando... di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Il Senato approva, restano pertanto assorbiti gli altri disegni di legge costituzionali congiunti. Auguro a tutte le senatrici e i senatori un sereno periodo di riposo insieme alle loro famiglie. Dove il mondo è diverso, diverso da qui. Auguro veramente a tutti un momento di riposo. Andateci sereni, ve lo dico francamente, sereni. Sereni, colleghi, no, colleghi, l'ho detto nel mio senso della serenità. Non pensate invece durante questo periodo alle riforme, perché sennò assumerebbe il significato renziano del termine serenità. E se qualcuno ha dei dubbi lo chieda al povero Enrico Letta, che quando incontro i palazzi mi sembra veramente il fantasma del palazzo che proprio bene non gli ha portato. Ma è come la fine della scuola, l'inizio delle vacanze, avete sentito, si ride, si scherza, applausi a Calderoli che dice state sereni. Se avete pensato che queste due settimane di battaglia al Senato per la riforma siano state una cosa seria, una vera battaglia, una lotta, beh, adesso avete capito, non era assolutamente questo. Tutti amici, tutti sereni, si stringono la mano, saluti, baci, abbracci. No, in realtà non è vero, non è del tutto così. Si lotta, si continua a lottare anche l'ultimo giorno nelle dichiarazioni finali, perché si continua a recriminare da parte dell'opposizione. Sentiamo ancora Calderoli. Il canguro è nato col presidente Mancino, ma l'ho svezzato e l'ho fatto crescere io. Però francamente 1400 erotti emendamenti in un sol colpo nessuno l'aveva mai fatto. È veramente un canguro col jet nel sedere, scusi il termine, ma una cosa del genere facciamoli, ma facciamoli cum grano salis, come ho già avuto modo di dirle. Nella sabbia e nel sole. E ancora, insomma, verrebbe quasi a dire Calderoli presidente ad honorem, lui del Senato anziché Grasso che è stato molto criticato, molto attaccato. Naturalmente hanno ruoli diversi. Grasso ha dovuto ci ha avuto questa patata bollente di gestire due settimane di Senato super infuocato. Calderoli aveva le mani un po' più libere e poteva fare anche le battute che all'ultimo giorno di lavoro fanno sorridere. Minzolini. La sua gestione dell'aula in queste settimane, a mio modesto parere, è stata a dir poco disdicevole. E pensare che era partito bene, quando ha deciso di adottare il voto segreto per una serie di emendamenti, io ho lodato pubblicamente il suo coraggio. Dopo un giorno da leone, però, strattonato di qua e di là, lei si è trasformato nell'ombra di se stesso, in un novello Don Abbondio. Avrà fatto la felicità dei suoi tante causa, ma ha fatto ribaltare nella tomba i costituenti di una volta. Sicuramente non farà una bella figura sui libri di storia e ha costretto una persona come me, sobria per carattere e convinzione, a rivolgersi alla Corte Europea per evitare che il suo precedente provochi gravi danni anche in futuro. Inoltre, con la sobrietà che la contraddistingue, concluda, prego. Inoltre, perché il tempo si assunta una grande irresponsabilità. Con la sobrietà che la contraddistingue, chissà perché, perché Minzolini non è sobrio, secondo, almeno nell'eloquio, non in altri sensi, secondo Grasso. E va bene, un giorno da leone, Grasso, vabbè, Grasso va bene quando approva il voto segreto, secondo Minzolini, non va bene quando fa il canguro, ma bisogna prenderlo o tutto o niente, è ovvio, no? Petrocelli, Movimento 5 Stelle. Gli 80 euro che rimettono in moto l'Italia sono un'altra bufala venuta fuori dal fantamondo di Renzi. Renzi ha fallito. Ora, che si debba dire che il problema della mancata crescita sono gli 80 euro, se non fosse che è una cosa seria, ci sarebbe da sganasciarsi dalle risate. Vi prego, un minimo di rispetto. Il punto fondamentale è: io gli 80 euro li ritengo un atto di giustizia sociale. E se una famiglia può permettersi una serata in pizzeria in più, credo che questo sia un elemento che, PIL o non PIL, valga la pena, perché è una scelta di civiltà in un paese come l'Italia. Sapore di mare. La sinistra ha pensato di poter non riconoscere non Berlusconi come proprio alleato. Chi lo vuole come alleato? Siamo in posizioni diverse. Berlusconi non vuole me, io non voglio lui, siamo in posizioni di diversità politica. Però c'è un grande rispetto per il fatto che milioni di italiani lo hanno riconosciuto e votato tante volte. Le regole si fanno insieme anche a Berlusconi. Qui il tempo è dei giorni. Il punto centrale però è che l'Italia deve tornare, io lo dico perché siamo anche nei giorni delle vacanze, prendiamoci un po' meno sul serio? Prendiamoci un po' meno sulle scatole reciprocamente, diamo serenità, diamo tregua. La politica non può essere tutte le volte una guerra, la politica non può essere, noi che facciamo politica vogliamo bene all'Italia, io sono qui non per cercare di far vincere i miei, io sono qui per cercare di portare l'Italia un pochino più avanti di dove era prima. E Renzi è così, avete capito, lui non è che non è cattivo, lui è buono, non combatte, lui vuole portare avanti l'Italia, non c'è verso di tirargli fuori una dichiarazione di guerra, del resto adesso come sarebbe possibile, incassa una vittoria, Renzi pronto per andare sicuramente al raduno scout a San Rossore tra i bravi ragazzi scout. Facciamo il traffico, 800 24 00 24 e poi torniamo con il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin. L'ostruzionismo è un'arma parlamentare che può essere utilizzata, ma continuare a gridare siamo al 47esimo colpo di Stato, l'ultimo l'ha annunciato dalla Costa Smeralda, Grillo, dice siamo al colpo di Stato, era lì con gli occhiali, tranquillo. Filippo Nogarin, il sindaco di Livorno, buonasera. Buonasera, eccoci qua. Le ho fatto sentire, dedicato anche a lei naturalmente, quel pezzettino di Renzi ieri sera a proposito insomma, delle critiche del suo partito, il Movimento 5 Stelle e di Grillo a questa riforma. Sì. Non so, che ne pensa? Relativamente alla riforma posso manifestare soltanto sdegno, cioè nel senso proprio più ampio del termine, credo che sia assolutamente una questione sulla quale c'è poco da commentare, credo che modificare l'articolo 138, ma non solo, cioè per come viene fatto, in che tempi, cioè veramente tutto da completamente, assolutamente da criticare. Però la critica che fa Renzi al vostro movimento, a Grillo, di diciamo parlare di colpo di Stato dalla spiaggia della Costa Smeralda, cioè come dire non c'è nessun colpo di Stato, insomma, come la prende questa critica? Dire colpo di Stato, di fatto poi, cioè, noi ci si immagina il colpo di Stato come un qualcosa di assolutamente violento, perché magari manifesta nell'immaginario collettivo un'azione legata al passato di come venivano esercitati i colpi di Stato, come abbiamo avuto nella storia modo di vedere purtroppo. Devo dire che i colpi di Stato sono molto più silenziosi nei tempi moderni. interni, ma di fatto mettono comunque una situazione generale in condizioni tali da essere paragonate veramente a un colpo di Stato. Ora poi chiaro il termine colpo di Stato è forte e vuole comunque richiamare un'attenzione, ma di fatto comunque siamo in condizioni in cui si va a toccare la sacralità di una Costituzione, il bicameralismo e tutto quello che comporta, che effettivamente sono questioni che fanno, come ho detto prima, cioè creano un'inquietudine, uno sdegno. Pertanto, se giustamente, cioè io credo, se Grillo l'ha fatto con quello che è comunque il suo linguaggio per richiamare un'attenzione, che mi sembra comunque che relativamente a questo argomento non sia abbastanza consapevole di quello che sta realmente accadendo attorno alla riforma costituzionale. Senta, lo so che è uno sforzo quasi impossibile, ma c'è una cosa meno peggio in questa riforma del Senato, qualche cosa su cui di positivo, una piccola cosa, qualcosa su cui si può ragionare? Io posso anche riassumere. Allora, i senatori passano da 315 a 100, 95 eletti dalle regioni tra i consiglieri e i sindaci, 5 di nomina presidenziale, senza indennità, con l'immunità, niente fiducia al governo, voteranno leggi costituzionali, referendum, materie come la famiglia, la salute, materie regionali, e non ci sarà più il ping pong sulle leggi, quelle diciamo ordinarie. Di tutto questo c'è qualcosa secondo lei che va bene? Ma guardi, io l'unica cosa che faccio veramente fatica a estrapolare un disegno complessivo, cioè una porzione da un disegno complessivo che francamente critico fermamente e da ogni punto di vista, quindi difficoltoso. Il programma si chiama Si può fare, no? Normalmente andiamo in onda il sabato e la domenica, facciamo un programma in cui cerchiamo proprio di raccontare quello che si può fare, le buone notizie anche, no? Estrapolare il buono dal meno buono in generale, quindi io capisco però veramente, cioè, non ce la fa. È un'operazione, ma non è un problema che non ce la faccia, è un'operazione veramente impossibile, quella di scorporare un disegno complessivo, sì, che in qualche modo è veramente l'alterazione di una visione che è quella della Costituzione, e dire questa parte è buona, cioè è veramente. Quindi anche se le domandassi qual è la cosa peggiore, per esempio, la risposta sarebbe diciamo implicita con quella che mi aveva già dato prima, cioè tutto. Sinceramente sì, poi magari io sarò particolarmente severo, però ho avuto modo anche di assistere a alcune sedute in Senato, quando sono andato a Roma con una riunione all'Anci, poi ho partecipato su dalla tribunette, e francamente insomma ho visto delle cose che sono inquietanti, cioè questo è un disegno che critico da ogni punto di vista. Poi insomma lei fa il sindaco di lavoro di una città anche abbastanza importante, quindi diciamo ha anche altre grane, insomma altre questioni di cui occuparsi, giustamente non è che sta lì tutti i giorni a interessarsi alla riforma del Senato. Anche da questo punto di vista mi permetta allora di fare un'osservazione, visto che tira in ballo questo aspetto, anche semplicemente rispetto a quello che è il tempo che eventualmente i sindaci dovrebbero dedicare al Senato. Lei comprende che ormai fare il sindaco è una responsabilità enorme, richiede un impegno tale che praticamente è tornato quasi ad essere una vocazione, intendo farlo bene, cioè farlo con coscienza e con una devozione al lavoro che è totale. Ora io mi chiedo come è possibile in questo disegno, e le garantisco che io sono impegnato mediamente più di 12 ore il giorno. Cioè come farò ad andare al Senato qualora per caso in Toscana mi elegge? Questo in effetti è un argomento credo abbastanza di sostanza. Non so se è stato abbastanza sviscerato, però insomma, cioè lei dice faccio il sindaco, lavoro 12 ore al giorno per cercare di migliorare la mia città, poi a un certo punto mi chiameranno se sarò nominato, eletto, per andare al Senato a Roma, dovrò occuparmi ancora di altre cose. Come faccio? Cioè, io devo studiare, cioè qui veramente mi trovo in situazione in cui mi trovo la notte oppure con gli assessori, cerchiamo in tutti i modi di approfondire ogni tema. Ha e ragione. Poi dopo su questo devo dire che è la mia solidarietà, perché già essere quanti abitanti fa Livorno? 160.000 con tanti problemi che ci sono da risolvere e la responsabilità enorme che ha un sindaco in tantissime cose. Beh, da questo punto di vista è vero. Senta, adesso parliamo un po' di questioni livornesi, anche se non solo. Lo striscione delle polemiche, accidenti, questo fermare il genocidio a Gaza, Israele vero terrorista, ma anche l'ambasciatore israeliano ha chiesto di intervenire, di non fare il gemellaggio con Gaza. Ma prima di tutto, lei che potere, il sindaco che potere ha su uno striscione affisso su un palazzo privato? Che cos'è lì a Livorno? Allora, il sindaco ha un potere che è quello eventualmente di fare un appello, di fare una domanda a chi l'ha posto. Cioè, qui però attorno a questo striscione sono nate polemiche e questioni che anche oggi sul Corriere della Sera è uscito un articolo che è assolutamente stravolgente rispetto a quelle che erano le mie dichiarazioni che ho fatto, tant'è vero che stamani mattina mi sono risentito anche con il giornalista e ho espresso comunque il mio disappunto, soprattutto anche sul titolo, su come è stato composto, però va bene, queste sono questioni attorno alle quali c'è semplicemente il dispiacere di constatare che un pensiero non è riportato fedelmente dagli organi di stampa e questo fa dispiacere. La parte relativa a quello che può fare un sindaco relativamente a questa cosa, come ho detto prima, è semplicemente esprimere, cioè quindi chiedere eventualmente la rimozione. Ma lei l'ha fatto questo o no? Io l'ho fatto non per vie ufficiali, cioè ho cercato di capire che cosa voleva provocare questo striscione. Questo striscione aveva una funzione specifica, che era quella di far nascere un dibattito anche importante relativamente a un problema di caratura internazionale, cosa che è puntualmente avvenuto, tant'è vero che lo striscione è diventato qualcosa nazionale, internazionale. Però, è un caso nazionale, internazionale, perché mi hanno telefonato anche da Tel Aviv, livornesi oggi, c'è veramente un'attenzione mediatica importante. Ma Livorno allora, è una città... Qual è la mia posizione? No, se mi permette, se non mi vuole fare le domande lei, io taccio e rispondo alle sue domande, come preferisci. No, io le faccio delle domande, naturalmente è il mio lavoro, però le do anche il tempo di rispondere, quindi vada avanti pure, sì. Allora, relativamente a qual è la mia posizione ovviamente è una posizione che è di piena solidarietà rispetto al messaggio che in qualche modo va a criticare fermamente, fortemente una violenza che in qualche modo colpisce la popolazione di Gaza. Questo è fuori da ogni discussione. Però al tempo stesso ho anche detto che lo striscione di per sé è anch'esso un qualcosa di violento. È chiaro che come non si può criticare il genocidio che di fatto è in atto, perché poi è il termine stesso che è stridente, soprattutto per quando poi dopo si va si vanno a vedere situazioni come colpire i bambini, come colpire una popolazione. Quindi intanto per chiarire alcuni aspetti, secondo lei, diciamo, a Gaza è in atto un genocidio, adesso c'è la tregua ma non si sa per quanto reggerà, quello che è successo può essere definito così, un genocidio? Io credo questo, credo che le disparità in campo sono veramente un qualcosa di assolutamente palese la questione legata alla crisi medio orientale sia assolutamente qualcosa di complesso. Attorno alla striscia di Gaza, voglio dire, sono decenni che si va avanti con problematiche che sono assolutamente complesse e che non sarà sicuramente il sindaco Nogarin della città di Livorno né a risolvere né a interpretare nel migliore dei modi, ma proprio per questo motivo dico, questa è una questione veramente estremamente complessa e che per quanto riguarda la città di Livorno merita quantomeno degli approfondimenti. Proprio per questo motivo, siccome riteniamo che qualsiasi posizione presa con troppa superficialità va inevitabilmente a suscitare nell'una o nell'altra parte sicuramente questo dei malumori, è il punto. Sì, perché questo momento in cui noi chiediamo a Israele e ai palestinesi di abbassare le armi e di fare la tregua, qualunque diciamo, incitazione da una delle due parti, diciamo da parte dei cosiddetti o supposti tifosi, io personalmente credo che sia sbagliata, perché non aiuta certo a risolvere la situazione. Mi permetta sì. Però che vista la differenza delle forze in campo, non ci si può che appellare allo Stato di Israele per un cessate il fuoco. Questo è fuori da ogni discussione. Intanto però mi scusi, Nogarin, è successo che sia stata dichiarata la tregua e poi siano continuati a partire dei razzi anche da parte di Hamas, che non ha accettato la tregua. Quindi infatti, non dipende solo da Israele. Io ho avuto una posizione assolutamente cauta in questo senso, cioè condanno fermamente ogni aspetto, però è anche vero che, e mi permetta di citare Gandhi a questo punto, cioè occhio per occhio il mondo diventa cieco, cioè qui non si tratta semplicemente di andare a criticare l'uno o l'altro, cioè qui c'è una critica ferma davanti a una questione che è la guerra. Cioè la guerra, punto. Cioè, ogni qualvolta qualcuno utilizza anche un termine violento, sì. È già di per sé compreso quello striscione, motivo per cui lei coerentemente ha chiesto di toglierlo, però loro non lo tolgono. Ma cos'è, un centro sociale o che cos'è? Ma guardi, è ben più di un centro sociale, cioè sono aggregazione di persone che comunque fanno una politica che è anche estremamente interessante, quindi di per sé ogni cittadino della mia città per me è importante e quindi merita comunque di avere attenzione. Ora io ho chiesto. Però sono tre settimane che lì mi pare che di attenzione lo striscione ne abbia avuto, insomma, forse non lo so, però, questa è una cosa. Devo dire che la questione legata ai termini sicuramente hanno la mia condanna, però non posso certamente io andare personalmente a tirare giù lo striscione, perché cioè è chiaro che sarebbe sarebbe una scena interessante, il sindaco si arrampica sulla parete. Senta, una cosa che però è dipesa da voi è stato questa cosa del gemellaggio con Gaza, cioè c'era in predicato un gemellaggio con Gaza e però su questo, forse anche per le polemiche che ci sono state o perché avete cambiato idea, avete fatto marcia indietro? No, allora, è questa la questione sulla quale c'è un'informazione che non è corretta. Noi non abbiamo fatto marcia indietro, anzi abbiamo fatto una marcia assolutamente in avanti, tant'è vero che ieri in Consiglio Comunale, grazie a un dibattito con tutte le forze politiche, abbiamo all'unanimità abbiamo sottoscritto un percorso che è promosso dal Comune di Torino, che è denominato Eurogaza. Questo per quale motivo? Perché siccome abbiamo detto, coerentemente con quanto poc'anzi ho espresso, che questa questione specifica di Gaza, ma non soltanto questa, ogni questione legata a rapporti internazionali merita sempre degli approfondimenti, allora abbiamo istituito un comitato di gemellaggio. Sì. Perché il comitato di gemellaggio dà modo anche a ruoli istituzionali come la prefettura, come la questura, piuttosto che le comunità che sono interessate ad entrare all'interno della stanza del Consiglio Comunale a dibattere di questioni che devono avvenire in quella stanza da un punto di vista istituzionale. Cioè, io però scusi, non ho capito bene. Allora, il gemellaggio è una cosa, si chiama così, è una cosa, non lo so, una cosa tecnica, cioè c'è un gemellaggio tra due città. Questo gemellaggio lo avete fatto o no? Abbiamo iniziato il percorso sottoscrivendo fin da subito un percorso aderendo alla rete Eurogaza. Se lei va banalmente su internet nel comune di Torino e legge sotto Eurogaza è una unione di più comuni che attraverso una cooperazione cercano di dare quantomeno un sostegno, quindi di fare delle cose pratiche per cercare di portare avanti quello che di fatto è lo spirito del gemellaggio. Allora, non è vero che c'è stata una retromarcia. Io ho letto sul sito di Controradio che avete ritirato la mozione, però non è vero. abbiamo ritirato la mozione, però istituendo un comitato di gemellaggio, e quindi abbiamo fatto in realtà un passo in avanti. Poi abbiamo, cioè, uno di lato e uno in avanti, via, perché ritirare la mozione, mi scusi, ma è un passo quantomeno di lato, se non indietro. Se non vogliamo dire indietro, diciamo di lato. È uno in avanti perché comunque in un modo meno frontale, però appoggiate, sostenete Gaza, e quindi andate avanti in questa rete di sostegno a Gaza, è questo, diciamo. Sì, esattamente. Vabbè, se lo vuol vedere uno laterale e uno in avanti, mi sta bene, cioè, lo capisco. No, perché, cioè, sennò non ci capisco più nulla. Se un collega scrive dietro fronte del Consiglio Comunale sul gemellaggio con Gaza, lei mi dice abbiamo fatto un passo in avanti, non ci capisco più. Di lato, beh, ecco, adesso capisco. È un pareggio. Mi permetta che però io come primo cittadino devo compiere dei passi che sono nella piena consapevolezza di quello che in qualche modo è un percorso. Certo. Io non posso mettere a repentaglio i rapporti internazionali semplicemente perché magari viene compiuto un passo. Mi sembra giusta la sua preoccupazione, sicuramente. E quindi sicuramente per me l'istituzione di un comitato di gemellaggio è un qualcosa di assolutamente saggio, anche nella misura in cui, come le ho detto, c'è stata comunque una palese sottoscrizione, quindi la volontà di andare a prestare sostegno attraverso quello che poi sarà ovviamente un eventuale gemellaggio con Gaza. Grazie per ora, buona estate al sindaco di Livorno Filippo Nogarini, grazie per essere stato con noi, buona serata. Grazie mille. Arrivederci, grazie. Borsa. Si può fare. Si può fare. L'attualità anche d'estate. 800 24 00 24, adesso cominciamo a sentire anche i vostri interventi, cari ascoltatori. Ricordo che oggi cerchiamo anche un personaggio della settimana che abbia una notizia legata a questa settimana. Si vincono i biglietti, chi indovinerà, per la mostra di Andy Warhol a Roma. Il primo indizio, l'abbiamo detto, questo personaggio è molto vicina a un capo di Stato. Vabbè, è un po' vago, ma tra poco magari diamo un altro aiutino. Intanto niente, abbiamo sentito il sindaco di Livorno Filippo Nogarin, Movimento 5 Stelle, bocciata su tutta la linea la riforma del Senato, naturalmente in linea con il Movimento, e poi sulla questione striscione, Israele terrorista, ho chiesto di rimuoverlo, ma del resto è una espressione, come dire, del pensiero dei cittadini di Livorno, e io lo rispetto, Israele terrorista. E poi avanza il progetto di gemellaggio di Livorno con Gaza. Allora, come detto, ascoltatori, andiamo con Angelo che ci chiama da Catania. Buonasera. Buonasera. Prego. Pronto? La sentiamo, Angelo. Buonasera. Buonasera. Sì, allora, io volevo intervenire sulla sulla riforma costituzionale. Dica, sì. Del Senato, sì. Dunque, io sono stato un elettore del Partito Democratico, per cui dovrei essere a favore, ma non lo sono assolutamente, perché questo tipo di riforma è una riforma molto rischiosa, perché si trasforma il nostro regime costituzionale, che era un regime costituzionale parlamentare, in un regime costituzionale di tipo semipresidenziale. Perché praticamente il potere viene concentrato nelle mani del Premier. E siccome noi abbiamo avuto qualche decennio fa, un secolo fa circa, un signore che poi ha praticamente preso il potere in maniera assoluta, credo che sia molto, ma molto pericoloso. Va bene, Angelo, io però non credo che c'entri molto il Premier, cioè, insomma, c'entra la maggioranza, la vita un pochino più facile perché non c'è il ping pong del Senato, quindi avrà un pochino più di mano libera la maggioranza, non il Premier. E di presidenziale al momento non c'è molto in questa riforma. Ora io non mi voglio sbilanciare, però comunque grazie. Antonio da Catanzaro, buonasera. Antonio da buonasera. Catanzaro, ce l'abbiamo? Sì. Sono qui. Anche noi siamo qua, prego. Cerchiamo di essere brevi. Io trovo veramente sconcertante sì. quello che dice il sindaco Nogarin. sì. Lo trovo molto ipocrita, tra parentesi. Cosa che ha detto, ne ha dette tante di cose. Ma tutto quello che dice è di un'ipocrisia fantastica. Come si fa a dire che non è una cosa grave accusare un popolo di una civiltà millenaria come Israele, che sta uccidendo il popolo di Gaza? Ma scherziamo. Ma questi terroristi stanno uccidendo i loro stessi bambini, mettendosi dietro le donne e i bambini per farli ammazzare e dire: vedete come sono cattivi gli ebrei. Insomma, no, è intollerabile, secondo me. Ed è intollerabile che la magistratura, il questore, non sia intervenuto, perché per legge il sindaco è un ufficiale, un pubblico ufficiale che ha l'ordine pubblico sulle sue spalle in un qualunque comune. Quindi un sindaco in buona fede avrebbe dovuto ordinare immediatamente la distruzione di quel manifesto. Sono molto addolorato, molto dispiaciuto, perché ancora una volta i grillini dimostrano di essere quelli che sempre sono stati e quelli che sempre saranno, cioè degli irresponsabili. Questo è un comunista ante litteram camuffato da grillino. Ma io camuffato sono da grillino adesso perché? Io sono un uomo di sinistra che ho votato sempre a sinistra, ho 81 anni, ne ho visto di tutti i colori, ma il degrado morale che vedo adesso in Italia è una cosa veramente vergognosa. Va bene, Antonio. Come mai, scusi, si commuovono tanto per quelli di Gaza e per quei poveri 100.000 cristiani che stanno cacciando? Nessuno ne parla, o perlomeno se ne parla così en passant. Questo è vero, questo è vero, è verissimo. C'è una specie di flusso di indignazione non proprio proporzionale a tutte le situazioni. Franco, perché naturalmente la questione fra israeliani e palestinesi consente schieramenti, divisioni più nette che non quello che succede, che ne so, in Nigeria o in Sudan o in Siria, dove magari non ci si capisce niente, per l'amor del cielo, però ci sono morti anche lì e un po' meno indignazione. Franco da Modena, buonasera. Buonasera, sono già in linea? Sì, tocca a lei. Benissimo, grazie. No, volevo semplicemente dire un attimo controbattere al sindaco di Livorno. Mi sta bene che lui sia sindaco, mi sta bene tutto. Ma quando sento dire che c'è il colpo di Stato e che il Grillo vuole fare delle proposte e Renzi non le accetta, io se ricordo, mi sembra che la prima volta che Renzi li ha invitati, Grillo non gli ha dato neanche il tempo di parlare. Renzi gli ha detto: facciamo le cose assieme. Esci da questo blog, gli ha detto. Sì, Renzi, infatti, esci da questo blog. E lui niente. E Grillo gli ha detto: tu sei bravo, ma non sei tu, sono quelli che ti muovono dietro che sono pericolosi. Certo. Però non ha detto assolutamente nulla e non ha fatto parlare Renzi. Si è alzato, se n'è andato via, adesso pretende che Renzi lo ascolti. Mi sembra che sia un attimo una cosa che non sta bene. Infatti l'hanno presa poi in saccoccia. Io credo con lei, e sono d'accordo con lei, che ci sia un momento di maggiore e più forte frustrazione da parte dei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle, ma forse anche degli elettori, non lo so, ma sicuramente dei politici del Movimento 5 Stelle, che di quelli in prima fila, che dopo aver puntato sull'opposizione, avere scelto poi di provare a dialogare sulle riforme con Renzi, poi di nuovo trovarsi a fare opposizione, adesso non sanno più molto che pesci pigliare, perché è come se avessero la sensazione di aver avuto l'occasione di influenzare, di interagire, e adesso invece si ritrovino di nuovo un po' marginalizzati, e quindi ci sia un po' di frustrazione. Ma del resto lo stesso Grillo qualche giorno fa ha detto: andiamo subito al voto, vediamo di nuovo quanto prende il nostro partito, se non prendiamo più voti allora mi ritiro, ho sbagliato tutti gli ultimi 7 anni della mia vita. Quindi evidentemente qualche dubbio ce l'ha anche lui. Paolo da Roma, buonasera. Buonasera a lei. Prego. Mi lasci fare sinceramente i complimenti con la vostra trasmissione. Grazie. Sì, a me piacerebbe del tutto personale che andasse avanti tutto l'anno questa trasmissione, con rispetto anche a me piacerebbe sicuramente, poi facendo qualche pausa ogni tanto. Per le altre, ma mi pare che qui si riesca a ragionare in maniera seria. Sì, guardi, ma si riesce a ragionare in maniera seria su Radio 24 in tanti spazi, Non sempre, mi dispiace dirlo. Va bene. Senta, non lo so, io io la zanzara, per esempio, quando voglio divertirmi la sento, ma se voglio ragionare in maniera seria non ci riesco. Però è un fatto personale e mi scuso se sono stato così diretto. Mi piacerebbe che tutto l'anno ci sia questa trasmissione. Guardi, volevo dire una cosa a proposito del commento sul colpo di Stato di Grillo, come è stato fatto notare anche da Renzi, è abbastanza stridente come accusa. A me vengono in mente i colpi di Stato veri, quelli fatti nei paesi asiatici, fatti in Cile, in Argentina, con milioni di persone, milioni letteralmente, tutti assieme, uccisi. Oggi c'è stata una nonna, 83 anni, che ha rivisto la sua nipote, quando la mamma in Argentina l'ha messa al mondo tra le torture, e questa bambina è nata e la mamma è morta quando la dava alla vita. E lui sta nella Costa Smeralda e parla di colpe. Voglio dire, tutta la libertà di criticare questa riforma, io non sono tra l'altro molto esperto, non so anche giudicare nel dettaglio, però credo che la massima offesa che Grillo oggi ha fatto è nei confronti di quei milioni di morti nei diversi colpi del mondo, perché è una cosa insostenibile, ecco, essere così superficiali come minimo è qualcosa che mi ha fatto raccaponare la pelle, è tutto qua. Grazie. Va bene, grazie Paolo, grazie. Allora, visto che non arrivano molte risposte, almeno credo per ora, alla domanda sul nostro personaggio della settimana, che facciamo? Diamo un altro indizio. Allora, il primo indizio è questo, abbiamo detto, è molto vicina ad un capo di Stato. Secondo indizio, è in linea con la spending review. 800 24 00 24, chiamate se avete idea di chi potrebbe essere questo personaggio. In palio, abbiamo già detto, ci sono i biglietti per la mostra di Andy Warhol. Il traffico. Piazza Lacoste, Bonghi, non siamo mica in Africa, porti i capelli lunghi, ma devi fare pratica, sei sempre fuori tempo, così mi uccidi l'Africa, e avrà pure tanti problemi, ma di sicuro non quello del ruolo. Tengo il volo che cade su una mente, su un treno a la IP, anche se tu tanta, o c'è in balena con la mia miele. C'è per l'orecchia, ti toscia batti i bombi. Ci sono ancora due italiane, Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, rapite in Siria. I familiari fanno sapere di non poter dire molto su questo. Il Ministero degli Esteri a Farnesina sta lavorando per capire che fine hanno fatto. Noi vogliamo capire un po' cosa può passare nella testa di giovani ragazzi, queste ragazze hanno 20 e 21 anni, che abbracciano, sposano questa pratica, questo tema della cooperazione, del volontariato internazionale. Insomma, perché proprio colpire e rapire proprio delle persone che vanno lì a fare del bene? E noi ne vogliamo parlare questa sera con Sibilla Restelli. Buonasera Sibilla, intanto. Ciao. Buonasera a tutti. Studentessa di medicina, di quanti anni? Ho finito il secondo anno, 22 anni. Giovanissima, 22 anni, e che è stata, non so quando esattamente, non da molto, rientrata da un periodo di volontariato in Zambia con Studenti Senza Frontiere. Quanto tempo sei stata, Sibilla, in Zambia? Allora, il mio intervento è durato in tutto 5 settimane e sono tornata da appena 2 settimane. 5 settimane, quindi un mese pieno, insomma un periodo non lunghissimo ma abbastanza lungo per fare un'esperienza tosta, seria, insomma interessante. Come è andata intanto? Hai tenuto un diario su Facebook, hai tenuto tutti aggiornati anche con verve, con energia, e si vedeva che è una cosa che ti ha dato anche la carica, insomma questa cosa che hai fatto. Sono tornata assolutamente entusiasta e devo dire che le normali paure prepartenza in 2-3 giorni sono svanite nel nulla, cioè per me è stata un'esperienza positiva al 100%. Che cosa facevi quando eri lì? Allora, io sono andata per aiutare nel dispensario di Katibunga, collegato al monastero benedettino appunto lì a sì. Katibunga. Quindi assistevo una signora che lavora lì da sola, appunto, in questo dispensario. Mm-hmm. E, fra l'altro, in un monastero, perché lo Zambia è un paese dove c'è una forte presenza di cristiani, forse addirittura maggioranza cristiana? Nello Zambia credo ci siano praticamente tutte le religioni del mondo che sì. convivono pacificamente, però sì, la presenza cristiana è importante. E sono stata in un monastero perché è il partner dell'associazione con cui sono partita, perché chiaramente è una sì. collaborazione Italia e paese africano dove si va a lavorare. Ma cosa ti ha spinto, insomma, ad andare a una studentessa in medicina al secondo anno? Tu dove vivi? Dove studi, anzi, scusa? Io studio alla Statale di Milano. Studi a Milano, quindi fai la tua vita tranquilla come molti altri ragazzi, poi a un certo punto qualcosa ti passa per la testa o è un percorso lungo che è maturato? In realtà per me il processo è stato inverso, nel senso che io sono praticamente nata con l'idea di andare a lavorare in Africa. Dopodiché è arrivata l'idea di andare a fare il medico in Africa, ma prima c'è stata l'Africa e poi io ho deciso di fare medicina. E come mai avevi questa colpi di fulmine? Questa passione per la trasmessa a qualcuno in famiglia, qualche amico, oppure le letture che hai fatto, dei viaggi? No, in realtà i miei mi hanno trasferito, diciamo, la passione per i viaggi, l'interesse per altre culture, ma i miei, diciamo, sono più interessati all'Asia. Uh-huh. La passione per l'Africa non ha una nascita esatta, un libro o un qualcosa, semplicemente così. Piano piano mi sono innamorata della loro cultura, del loro paese, cioè soprattutto l'Africa subsahariana. E quindi, insomma, per te avere la possibilità con questa associazione Studenti Senza Frontiere di andare è stato un attimo, non ci hai pensato neanche molto, hai detto vado? Assolutamente, come si fanno? Mi sono resa conto che ho avuto un attimino di tempo fra tutti i vari esami, ho detto ok, adesso vado, finalmente vado. Come si fanno le cose a 20 anni forse, cioè così, anche un po' distinto, no? Assolutamente, proprio di pancia e poi con il supporto assolutamente fondamentale dell'associazione che ti accompagna in questo processo, che comunque non è semplicissimo, perché l'entusiasmo c'è, però poi bisogna anche un attimino ragionare su come, il perché, il dove, in che modo, eccetera. Ma tu cosa hai pensato quando, insomma, eri già tornata, quando è uscita la notizia di queste due, che sono praticamente due tue coetanee, che sono anche loro volontarie, rapite in Siria? Ti sei, come dire, immaginata che avrebbe potuto succedere anche a te, forse, non lo so. Ma allora, io devo ammettere che non mi sono mai sentita in pericolo dal punto di rapimento o cose di questo tipo, perché lo Zambia comunque è un paese assolutamente pacifico. Lì c'è, se vuoi, un attimo di più il problema del rischio malattie. Però io devo dire che non mi sono mai preoccupata, forse anche perché sono un po' avventata. Certo, la Siria è una scelta completamente diversa. Cioè tu dici, andando in Siria si sa che si va, è chiaro, questo è vero, in una situazione dove ci sono limitazioni anche della libertà e rischi anche proprio cioè pensi che queste due ragazze sapessero un pochino di più a quello a cui andavano incontro? Io non le conosco, quindi non mi voglio permettere, però penso che sì, scelte. Nel momento in cui uno prende una scelta consapevole, secondo me 20 anni si prendono scelte consapevoli. In Africa 20 anni sei una donna, nessuno lo mette in dubbio questa cosa. Si prendono scelte consapevoli con i conseguenti rischi. E perché, quindi, secondo te, però, questi gruppi armati se la prendono spesso proprio con figure come rappresentanti della Chiesa o volontari, cioè gente che sta in mezzo, no, che cerca di risolvere i problemi, accidenti, uno sta lì, si fa un mazzo così per far star meglio gli altri e poi finisce in queste situazioni. Perché secondo te può succedere una cosa del genere? Ma secondo me è semplicemente una questione percentuale, nel senso che se la prendono con talmente tanta gente che qualche volontario ci deve finire in mezzo per forza. Sì. Per una questione di percentuale, e perché probabilmente vogliono questo impatto a livello internazionale. Vogliono avere un impatto mediatico, certo, e quindi qualunque figura occidentale poi scatena la stampa, e quindi questo è quello che vogliono. Sicuramente tornerai in Africa presto. Non vedo l'ora. Quindi nessun tentennamento, insomma, anche in altri paesi magari. No. Sì. Sì. Per esempio dove? Sì. Beh, ad esempio, appunto, io sono atterrata in Tanzania e poi ho viaggiato, ho attraversato un pullman la Tanzania per poi fermarmi in Zambia, e intravederla così mi ha fatto veramente venire voglia di scoprire di più. Anche perché per noi l'Africa è come un agglomerato unico, sì. L'Africa, ma in realtà è un continente immenso e hanno culture anche molto diverse fra di loro, ed io le trovo interessantissime tutte quante, ed è bello scoprirle, e lo devi fare in loco, secondo me. Va bene, in bocca al lupo per tutto, per gli studi e per il volontariato. Grazie Sibilla Restelli per essere stata con noi, auguri, ciao. Allora, andiamo di nuovo con gli ascoltatori e facciamo a Cristian che ci chiama da Milano. Buonasera. Prego. La chiamavo a proposito dell'intervento del sindaco di Livorno, che sinceramente sì, mi ha lasciato totalmente basito e totalmente in linea invece con l'intervento dell'ascoltatore che ha chiamato immediatamente dopo, perché è una bandiera di ipocrisia assolutamente incredibile. Innanzitutto sarebbe molto carino andarci in quei posti prima di cominciare a schierarsi a fronte di Eurogaz o di qualunque altro tipo di associazione. Le do subito una nota di colore che così sì, è carina. Io sono andato lì tante volte e ho cercato di acquistare, perché poi se non mi portava fuori l'esercito non so se a quest'ora sarei qua in grado di parlare con lei. Ho acquistato un bellissimo kit, sai quei kit che da bambini ci vendevano, il piccolo cowboy, il piccolo indiano con la pistola, sì, il tomahawk eccetera, ecco, lì ti vendono il kit del piccolo terrorista. Ma dov'era esattamente, scusi che mi sono perso, dov'era? Al mercato di Gerusalemme, al mercato arabo di Gerusalemme. Cioè, cosa vuol dire il kit per il piccolo kamikaze? Un simpatico cartonato, sì, ricoperto dalla plastica, con all'interno in formato bambino la fascia con le scritte in nome inneggianti ad Allah da mettere in testa al bambino, con la relativa fascia porta C4 o esplosivo a scelta. Cioè, questo è in vendita più al mercato di Gerusalemme, così? Sì, non solo, vendono anche dei bellissimi oggettini in latta, dei piccoli pullman in latta molto vintage, molto carini, che sono quelli delle linee, diciamo, della TM israeliana, sì, dove tu gli metti le famose super boom, quelle gialle che esplodevano una volta delle pistoline, dai la carica e quello dopo qualche metro fa boom e dentro ci sono simpatici cadaveri di israeliani morti. Cioè, questo è il tipo di cultura con cui si vanno a confrontare. Sì, sì, no, è una cultura del tutto speculare a quella israeliana, dove si potranno trovare, non dico cose simili, ma saranno cose diverse, però è una cultura di guerra, di atti di terrorismo e di guerra. Grazie Cristian per averci chiamato, andiamo con Alfonso che ci chiama da Milano. Ciao, avevo chiamato per, sì, il personaggio. Sì, certo. Allora, la risposta mia è Chantal Biglia. Come, scusa? La mia risposta era Chantal Biglia, era praticamente la moglie del, sì, presidente del Camerun, che questa settimana è diventata famosa perché ha fatto un articolo, credo Washington Post, perché ha dei capelli molto importanti, diciamo. Ah, vedi, hai trovato una notizia e in effetti si tratta di un personaggio che è molto vicino, come ho detto io, molto vicina a un capo di Stato, la moglie, però non è Chantal Biglia, la moglie del Presidente del Camerun. Ci speravo veramente. Poteva anche starci. Succede a volte che gli ascoltatori danno delle risposte che sono addirittura più in linea con l'indizio del personaggio che abbiamo scelto noi. Grazie Alfonso, continuate a chiamare 800 24 0024, ci risentiamo dopo il giornale radio. Sale, sapore di mare. Il Senato approva. Restano pertanto assorbiti gli altri disegni di legge costituzionali congiunti. Auguro a tutte le senatrici e i senatori un sereno periodo di riposo insieme alle loro famiglie. Auguro veramente a tutti un momento di riposo, e andateci sereni, ve lo dico francamente, sereni colleghi, no, colleghi, l'ho detto nel mio senso della serenità, non pensate invece durante questo periodo alle riforme, perché sennò assumerebbe il significato renziano del termine serenità. E se qualcuno ha dei dubbi lo chieda al povero Enrico Letta, che quando incontra i palazzi mi sembra veramente il fantasma del palazzo che proprio bene non gli ha portato. Si ride, si scherza, avete sentito, in Senato con Calderoli, ormai vero leader o comico indiscusso al Senato, che insomma strappa l'applauso. Se avete pensato che queste settimane sono sono state 2 settimane di scontro, di battaglia sulla riforma del Senato. Ebbene, è tutto finito, perché alla fine ci si stringe in un abbraccio e in un saluto, sapore di mare, già si prefigurano le agognate vacanze. Ma no, a parte gli scherzi, non è proprio così, si continua a lottare al Senato, dichiarazioni comunque di opposizione da parte dell'opposizione. Allora sentiamo proprio lo stesso Calderoli, poi Minzolini. Il canguro è nato col presidente Mancino, ma l'ho svezzato e l'ho fatto crescere io. Però francamente 1400 erotti emendamenti in un sol colpo nessuno l'aveva mai fatto. È veramente un canguro col jet nel sedere, scusi il termine, ma una cosa del genere. Facciamoli, ma facciamoli cum grano salis, come ho già avuto modo di dirle. Il tempo è dei giorni. Avrà fatto la felicità dei suoi tante causa, ma ha fatto ribaltare nella tomba i costituenti di una volta. Sicuramente non farà una bella figura sui libri di storia e ha costretto una persona come me, sobria per carattere e convinzione, a rivolgersi alla Corte Europea per evitare che il suo precedente provochi gravi danni anche in futuro. Inoltre, con la sobrietà che la contraddistingue, concluda, prego, perché inoltre, il tempo va a scadere. Una grande irresponsabilità. Quando fuori flexo superman, senza fare love non si può stare. Oh baby, beach on the beach. E nel nostro spazio Inviati sotto l'ombrellone, in cui ogni sera diamo spazio a tanti punti di vista, a tante storie, questa sera un ospite di super eccezione, il sindaco di Roma Ignazio Marino. Buonasera. Buonasera, grazie per l'invito e un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori. E buona estate, perché comunque cominciano le vacanze. Abbiamo sentito, per i senatori, per il Parlamento è giusto, a parte noi che rimaniamo qua a lavorare, ma insomma prima o poi è giusto andarci in vacanza. Credo che anche lei l'abbiamo strappato agli ultimi minuti di lavoro prima di dedicarsi. No, io rimarrò a Roma sino al 22 di agosto, perché abbiamo ancora molte questioni da completare. E quindi... Ah, benissimo, ci fa compagnia. Magari ci risentiamo pure allora la settimana molto di Ferragosto. Volentieri, perché avevo letto volentieri da qualche parte che anche lei, insomma, tutti i politici adesso vanno in vacanza, i siti si scatenano per sapere dove vanno. Ma naturalmente i sindaci un po' meno. Un po' meno. Diciamo. Abbiamo parlato prima con un suo collega Filippo Nogarin di Livorno, quindi insomma delle difficoltà. Tra l'altro i sindaci che poi saranno chiamati insieme ai consiglieri regionali a fare un altro lavoro, se passa questa riforma del Senato, cioè eventualmente anche andare in Senato. Nogarin era un po' scocciato, perché dice: io lavoro 12 ore al giorno per Livorno, e già questo non è poco. Io, guardi, ho sempre lavorato tanto come chirurgo del trapianto di fegato, ma non ho mai lavorato così tanto come adesso. Lavoro una media di 15-16 ore al giorno, 7 giorni a settimana. Però, Roma è una città davvero con tantissime aree strategiche di cui occuparsi. Certo. Dal problema dei... Ne affrontiamo qualcuno, figuriamoci la cultura a Roma. Però allora è vero questo aspetto della riforma del Senato, che è un po' stridente, cioè persone come voi già in prima linea, che insomma, poi uno potrà anche ironizzare che i sindaci in realtà non lavorano, ma che dichiarano comunque e sono impegnati e hanno la responsabilità di una città come Roma. Se lei fosse eletto tra quelli che devono andare al Senato, dovrebbe trovare il tempo per fare anche quello. Ma io spero proprio di non essere eletto per andare al Senato, perché sinceramente ho anche declinato molto volentieri, sì, ogni possibilità di essere eletto come presidente dell'Assemblea dei Sindaci, proprio perché non credo di avere più tempo di 16-17 ore al giorno, 7 giorni a settimana. Quindi chissà, non mi interessano cariche altre che poi cose, si riducono, sì, ad essere un titolo e non un effettivo lavoro. Questo potrebbe essere il caso dei senatori, secondo lei? Beh, certamente se una persona impegna 15 ore al giorno, 7 giorni a settimana per fare il sindaco, credo che non possa trovarne altre, diciamo, 6-7 al giorno per fare il senatore. Ma e quindi finirà che ci vanno, uso una parola brutta, gli scarti, cioè quelli che hanno i sindaci meno impegnati, non lo so, chi ci potrà andare? Perché... No, ma ad esempio io, come accade per queste, sì, cariche importanti in altri paesi dell'Unione Europea, sono spesso assunte da sindaci di piccoli centri, non so, sindaci di centri che hanno 5.000-8.000 abitanti e quindi effettivamente hanno un impegno minore di chi invece deve gestire una città come Roma di oltre 3 milioni di abitanti. Quindi insomma potrebbe davvero essere un senato, non dico di scarti, però insomma di figure di meno rilievo, insomma. Il presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni in Francia è da molti anni un sindaco di un comune di 8.000 abitanti, va bene. Ed è una straordinaria personalità, certo. È stato anche per 2 o 3 mandati ministro della Repubblica Francese. Ok, va bene. Senta, se ci sta, visto che il tempo poi è quello che è, tocchiamo 3 o 4 argomenti abbastanza rapidamente, se anche lei nelle risposte ce lo consente, altrimenti molto ne tocchiamo bene. Di meno. I tavolini in Piazza Navona, situazione risolta o che cosa? Perché dopo... Assolutamente sì, io ci tengo che Roma sia una città che possa essere orgogliosa del proprio decoro. È importante che a Roma chi svolge commercio, attività commerciali, come le persone che fanno ristorazione in una piazza che ci invidia tutto il mondo come Piazza Navona, lo possano fare. Ma non deve esserci quello che è stato definito dagli stessi romane e romani il tavolino selvaggio, i tavolini che invadono la strada. Sì. Devono esserci degli spazi delimitati. Ogni esercente deve poter avere diritto, ma ad esempio non deve oltrepassare il marciapiede, in modo che la piazza rimanga nel suo insieme ampiamente libera per i turisti, per le turiste, per i romani, le romane, vogliono godere di una certo. piazza che ha avuto 2 architetti straordinari come Borromini e Bernini. Ok, però quindi diciamo i ristoranti hanno finito di protestare, perché fino a un paio di giorni fa o forse ancora ieri c'è stata un po' di maretta. La situazione... Ma il problema è molto semplice. Alcuni anni fa erano state stabilite delle regole. Sì. Il sindaco che mi aveva preceduto aveva chiuso quelle regole in un cassetto e non le aveva mai fatte applicare. Io ho detto che queste regole si devono applicare. Nel momento in cui l'ho detto, gli esercenti mi hanno denunciato al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio. Il Tribunale Amministrativo ha dato ragione a me, ha detto che era giusto che io facessi applicare le regole dettate dalla legge. Va bene. Hanno ricorso anche l'altro giorno a un altro tribunale, il Consiglio di Stato, e oggi hanno perduto nuovamente, quindi la questione è definitivamente chiusa e valgono le regole che io voglio portare che sono a state, Roma, in Piazza Navona e altrove. Senta, ma io avevo letto che nel merito il TAR si sarebbe pronunciato a gennaio del 2015, avevo letto male forse, o c'è ancora qualche pronuncia, perché no, in Italia non merito, si finisce mai. Nel merito sì, però essi hanno fatto ricorso immediatamente al Consiglio di Stato e il Consiglio di Stato si è pronunciato immediatamente, quindi io credo che la questione sia chiusa. Però senta, non è che non si rischia, poi d'estate spesso ci sono le ordinanze di tanti comuni, tanti sindaci, se ne leggono di tutti i colori, a Venezia non si possono fare le buche nella sabbia, quindi i bambini vanno tenuti forse al guinzaglio, non so, a Genova non si possono stendere i panni alle finestre nel centro storico, non si rischia di morire asfissiati da troppo decoro e di perdere di vista magari la sostanza. Insomma, di essere quando io sarò accusato di troppo decoro in tutta l'area metropolitana di Roma, devo dire che quel giorno festeggerò. Al momento sto lottando per portarlo il decoro a Roma e non posso certo dire di essere riuscito a portarlo in ogni luogo della città. Ci sono ancora delle aree dove c'è veramente molto lavoro da fare, soprattutto nelle periferie. C'è molto lavoro non solo per il decoro legato ad esempio ai tavolini come a Piazza Navona, ma per le scritte sui muri, le scritte sugli autobus, sui vagoni della metropolitana, la cura dei giardini anche nelle aree periferiche. Abbiamo molto da fare, lo stiamo facendo però come si vede con grande determinazione. Senta, lei è entrato in polemica anche con, credo, con la Roma Calcio per questa questione dei manifesti degli abbonamenti, in cui si fa riferimento al branco. È una parola che a lei non è piaciuta, il branco, che poi sarebbe nelle intenzioni della società, la squadra, no? Io sono intervenuto perché me lo hanno chiesto, mi hanno chiesto cosa pensavo del fatto che alcuni consiglieri comunali avevano criticato questa pubblicità dove si faceva riferimento al branco che era ancora in caccia alla ricerca di prede. E ho fatto un commento perché proprio in questi giorni a Roma, dopo 25 anni, cioè un quarto di secolo, abbiamo approvato un regolamento per gli impianti pubblicitari di tutta la città, che erano anche quelli assolutamente al di fuori delle regole. Pensi che Roma aveva 234.000 metri quadrati di pubblicità e incassava meno della metà di Milano, che ne ha soltanto 80.000. Noi li abbiamo regolamentati e arriveremo a guadagnare e quindi a investire in servizi ai cittadini, invece che 13 milioni di euro, 30 milioni di euro l'anno, che potranno essere anch'essi investiti in decoro urbano. Tra le regole che abbiamo imposto è quello, ad esempio, di non usare a Roma nei manifesti il corpo femminile denudato, legandolo a scopi commerciali. E quindi la nostra giunta ha una sensibilità su questo, sul tipo di pubblicità che si utilizza. La parola branco, la ricerca delle prede, come lei sa, spesso è stata collegata a fatti di violenza proprio sulle donne, e allora forse sarebbe opportuno utilizzare altri termini, ma è chiaro che la Roma può fare le scelte che ritiene più opportune. Anche se c'è un senso ironico, credo, comunque non è sicuramente non è inteso in senso negativo quel branco, però lei dice in ogni caso a scanso di equivoci. Penso assolutamente di sì, e non ho nessun elemento per dire che sia stato pensato. Però è chiaro che se io non sono certamente la persona abilitata a fare queste scelte, ma se dovessi scegliere io non userei la parola branco alla ricerca delle prede per una pubblicità che invece vuole essere proprio positiva, soprattutto in un momento storico in cui dobbiamo fare molta attenzione al fatto che lo stadio e gli avvenimenti sportivi siano momenti di gioia, di festa e non di casino. Momenti di violenza. Senta, un'altra cosa, lei qualche giorno fa ha fatto il punto sulla questione dei rifiuti a Roma, ha detto abbiamo superato di nuovo l'emergenza, c'erano i cassonetti stracolmi, avete tamponato, ma la soluzione di medio periodo, anche in vista di settembre, allora, ce l'avete? Una soluzione immediata che è stata quella di portare a Roma una nuova tecnologia che abbiamo impiantato da due settimane, che ci permette di trattare ulteriori 300 tonnellate al giorno di rifiuti, e quindi di evitare di trovarci di nuovo per il blocco di una delle nostre macchine in emergenza. La settimana prossima, la settimana di Ferragosto, abbiamo convocato una giunta straordinaria dove verrà presentato dal presidente dell'azienda che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti il nuovo piano industriale, che prevede la realizzazione di un ecodistretto, un luogo dove la separazione dei nostri rifiuti, il vetro, la carta, il cartone, i metalli, la plastica, diventeranno nuova ricchezza, nuovo investimento, e dall'organico, cioè dal materiale organico, produrremo gas. Quindi da un problema avremo finalmente una nuova economia e una risposta anche che porterà denaro alla nostra città e ci permetterà di abbassare la tassa sulla raccolta dei rifiuti delle romane e dei romani. Senta, prima di salutarci, oggi sull'Espresso in edicola oggi Umberto Veronesi torna sulla questione marijuana, cannabis, e dice una buona volta facciamo come stanno facendo negli Stati Uniti e anche altrove e liberalizziamo. Lei ha già detto altre volte che sarebbe favorevole, no? Ma io sono molto favorevole al modello che è stato applicato in due grandi stati degli Stati Uniti d'America, il Colorado e lo stato di Washington, dove si è deciso di vendere legalmente i prodotti della cannabis e addirittura per evitare il rischio di tumore legato all'uso di tabacco, di somministrarla con delle sorte di sigarette elettroniche, quindi con un vaporizzatore, quindi con un pieno controllo del dosaggio e sotto la legalità che uno Stato come quello del Colorado e del Washington, di Washington possono offrire. Questo è particolarmente importante in questo momento storico perché le grandi organizzazioni criminali che si possono permettere di pagare anche scienziati, esperti in chimica, stanno manipolando le piante da cui si produce la cannabis e le stanno manipolando geneticamente in modo da rendere ancora più rischioso l'uso di quello che mettono in commercio illegalmente, quindi di aumentare la dipendenza delle persone che utilizzano i prodotti della cannabis. Insomma, credo che se lo hanno fatto gli Stati Uniti, che avevano delle norme severissime, io ho vissuto quasi 20 anni negli Stati Uniti e una persona trovata in possesso di una singola dose di marijuana veniva arrestata, addirittura se era un medico gli veniva proibito l'accesso alla professione per almeno sei mesi oltre l'arresto. Un paese come quello ha fatto un ragionamento e ha ritenuto che forse spezzare la catena della criminalità possa essere positivo. Io lo penso anch'io, comunque, per quello che conta. Grazie a Ignazio Marino, sindaco di Roma. Grazie a voi e buona serata. Buon weekend, buona estate e buon lavoro, visto che ha detto che rimane a Roma fino al 22 agosto a lavorare. Settimana prossima importante presentazione di questo piano per la risoluzione, forse definitiva o come minimo di medio periodo, della questione rifiuti. Facciamo una pausa per la borsa. 800 24 00 24, andiamo con Agnello che ci chiama da Como. Buonasera. Buonasera. Caduta. Allora andiamo con Elia che chiama da Firenze. Buonasera. Elia? Tutta gente in attesa già da un po' e non c'è nessuno. Che succede, ragazzi? Andiamo con Giulio da Milano. Buonasera. Giulio, eccolo qua. Buonasera. Buonasera. Ho sentito prima la testimonianza dell'ascoltatore che diceva della vendita al mercato di Gerusalemme di ordigni o pseudo ordigni per bambini, diciamo così, per indottrinare i bambini. Sì. Lei diceva prima anche gli israeliani fanno lo stesso. Volevo chiederle, siccome lei è un giornalista sicuramente è informato, se ha notizia certa di questa cosa. No, guardi, lei casca male perché io non ho detto questo. Io ho detto che quella notizia che ci ha dato l'ascoltatore è sintomo di un clima di guerra nel quale si vive e sicuramente se si va a vedere qualcosa del genere succederà anche da parte israeliana. Non ho detto che succede la stessa cosa, ho detto che è il sintomo che si vive in un clima di guerra. E questo... Ma è una prova certa, io sono stato da quelle parti. Io quindi... so di racconti di analoghi a quelli che ha fatto l'ascoltatore, però lei ha detto con certezza che accade la stessa cosa da parte di... Non ho detto questo, guardi, mi dispiace deluderla, non ho detto questo. No, so benissimo quello che ho detto, se vuole lo ridico, allora correggo, se lei preferisce correggo. Io ho detto che quella cosa che ci ha detto l'ascoltatore, che si trovano le cinture con scritto Allah, che inneggiano, che per metterci le bombe per fare i terroristi, sono il sintomo del fatto che si vive in un clima di guerra. E se vai a guardare le cose anche dalla parte di Israele, troverai sicuramente altri segnali del fatto che si vive in un clima di guerra e che quindi la guerra è normale, viene pensata come cosa possibile. Questo ho detto. Se poi pensa che da una parte ci sono i terroristi e dall'altro non c'è niente, credo che si sbagli, perché dall'altro c'è un esercito che tira le bombe e butta giù anche le scuole, giustamente perché vuole abbattere i terroristi. È stato riconosciuto con una decisione dell'ONU nel 48 che non è stato accettato per niente fin da quando. Vabbè, ma adesso noi non è che voglio riaprire o che si debba riaprire la questione del 48. Che c'entra adesso questo? Va bene, mettiamoci a discutere della storia. Facciamolo. Che non sta in piedi. Come, scusi? Ha fatto un'equivalenza che non regge. Va bene, questo secondo lei. Io invece penso che regga. Secondo me mai, perché io ho ascoltato, non perché lo invento. No, ma cosa ha ascoltato, scusi? Quello che lei ha detto. Ho capito, lei non è d'accordo con questa cosa che io ho detto. Va bene, non è che dobbiamo essere d'accordo su tutto. No, per carità, ci mancherebbe altro. Lei però mi ha chiesto spiegazioni, io le ho dato spiegazioni. Non ho prova certa, qualcuno che ha prova certa magari può chiamare e darcela prova certa. Io sono stato lì, sono stato a Gerusalemme e non avevo visto nemmeno le cinture dei piccoli kamikaze. Quindi, evidentemente... Lei ha visto kit per ammazzare i palestinesi venduti da israeliani. Va bene, non è questo che volevo dire, non è questo che ho detto. Ho detto che mutatis mutandis, anche dall'altra parte, troveremo dei segnali del fatto che lì si vive in un clima di guerra e che quindi pensare alla guerra è cosa normale. Questo ho detto. Sì, ma siccome l'ascoltatore ha fatto un esempio, lei ha detto, ma dall'altra parte è uguale. Va bene, grazie, buona serata. Lei insiste, non ho detto questo, che ci vogliamo fare. Elia da Firenze, l'abbiamo recuperato? Sì, sì, ci Eccolo, sono. Sì. Salve, senta, no, io volevo provare a indovinare il personaggio della settimana. Sì, sì. Tenterei la regina di Spagna, perché ultimamente è stata vista molto dimagrita e recentemente è diventata regina, appunto. Ah, quindi questa secondo lei era la notizia. Non è la regina di Spagna però, Elia. Grazie per aver chiamato. Adesso magari tra poco diamo un altro indizio. Massimiliano da Roma. Come? Buonasera. Eccolo. Posso provare anch'io il personaggio? Certo. Anche se magari non è stata alla ribalta ultimamente, però mi è venuto in mente Clio Napolitano, siccome ha parlato di spendere più un'utilitaria, ecco. Perché Clio è l'utilitaria? Ah, perché la... Clio, essendo, ecco, anche il nome della macchina. Anche il nome della macchina, questa poteva essere un bel gancio, una bella battuta. Comunque non è lei, Massimiliano, grazie. Non è neanche Clio Napolitano, allora io ripeto, allora gli indizi sono questi. È molto vicino a un capo di Stato, in linea con la spending review. Aggiungiamo un altro indizio. È appena diventata maggiorenne, quindi ha appena compiuto 18 anni. Cerchiamo questo personaggio della settimana, si vincono i biglietti per la mostra di Andy Warhol a Roma, quindi anche un piccolo premio, 800 24 00 24. Andiamo con Riccardo che chiama da Bologna. Buonasera. Buonasera. Io sono molto preoccupato di quello che è passato, cioè della riforma del Senato, perché pare sia molto simile a ciò che aveva scritto Licio Gelli nel 76, tranne due cose, che sono la riforma, cioè il referendum propositivo e l'abolizione del CNEL, sono due pezzettini di niente che erano all'interno del programma di un programma del Movimento 5 Stelle. Questa situazione sì. Non può essere, prima c'era un signore che parlava di Repubblica Presidenziale, lei ha detto che ci siamo molto lontani, che la Camera deciderà, non sarà il Presidente del Consiglio. Io invece proprio che è il Presidente del Consiglio che deciderà autonomamente tutto quello che c'è da fare, visto che nessuno all'interno del Parlamento, né alla Camera né al Senato, è eletto direttamente, ma è nominato molto probabilmente dalla direzione del partito, quindi in sostanza dal Premier. Funzionerà che chi non è d'accordo con quello che dice sì. Il Premier, come è stato fatto fino adesso nel Partito Democratico, perché quando lo faceva Grillo c'era nel sì, Riccardo, però mi scusi, ho capito lei dove vuole arrivare a fare quello che dice. Ognuno la può vedere come gli pare, però le faccio notare solo una cosa. Se è vero quello che dice lei, che si va verso una Repubblica Presidenziale perché i parlamentari saranno nominati al Senato e alla Camera, allora sono già stati nominati adesso, perché quelli che ci sono vengono da un'elezione di nominati, non si è votato né con le preferenze né con i collegi uninominali. Allora già ci siamo adesso in una Repubblica Presidenziale? Glielo domando. No, adesso eravamo in una Repubblica con una Costituzione del 48 che secondo me sì, però, aveva... però ci sono già le liste bloccate, Riccardo, quindi lei ha detto si va verso una Repubblica Presidenziale perché il Presidente del Consiglio farà quello che gli pare, perché i parlamentari sono nominati, sono già nominati. Si sono presentati alle elezioni dicendo sì. Di abolire Porcello, ma hanno fatto l'esatto contrario. Cioè bisogna che la gente se ne renda conto, hanno costituzionalizzato l'esatto contrario. No, ma ripeto, ognuno la può pensare come vuole, può dire quello che vuole. Le persone... Sì. Le persone persone contano qualcosa o devono vendere delle lavatrici o delle televisioni quando fanno campagna elettorale questi signori? Perché hanno scocciato. Lei lo sa che il 28 agosto termina la il termine per la presentazione delle liste della città metropolitana e lei non può votare, lei cittadino, lei la sa questa cosa. Questo è uno Stato democratico. Il primo gennaio del 2015 fanno le città metropolitane alla facciaccia nostra e noi non possiamo votare. Ma si rende conto di dove siamo o no? Sì, sì, Riccardo, io ho semplicemente fatto notare quella che secondo me era una contraddizione nel suo ragionamento. Poi non è che sto dicendo quello che dice lei sono cose sbagliate o fesserie o che non ci si possa preoccupare per la democrazia, ci mancherebbe. Federico da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Senta, in parte lei ha già risposto a una domanda che volevo porle, quindi non vado avanti. Però parliamo sempre di Hamas e la striscia di Gaza. Ora, se io vado da Mike Tyson, io che sono una persona normale, vado da Mike Tyson, gli do un calcio negli stinchi e gli dico che è un frotto, quello mi ammazza a pugni probabilmente. Possibile. Voi non direte, oh poverino Federico, che Mike Tyson gliela suonate, ma direte, ma guarda che deficiente che è andato a attaccare uno. Possibile anche questo, sì. Beh, sì. Allora, è dal 48 che gli arabi cercano di buttare in mare gli israeliani, sì. E non ci riescono. Io francamente basta con questo compatimento, perché innanzitutto sarebbe da vedere quanto Hamas rappresenta la popolazione della striscia di Gaza, visto che il servizio segreto israeliano continua a ricevere informazioni da lì di dove sono i capi di Hamas, e certamente non glieli danno degli infiltrati israeliani, ma gli dà qualche spia palestinese che ne tiene le tasche di mantenere questa branco di mafiosi terroristi. Peraltro, cioè, mi sembra evidente che la logica dice che i palestinesi devono fare quello che un po' di anni fa fecero gli abitanti della Palestina cristiani che si sottomisero agli arabi invasori. Questo devono fare. Io mi rendo conto che... Quindi fare che cosa? Niente, sottomettersi, diventare un paese che non ha più pretese di aggressione, di supremazia nei confronti degli ebrei, che ormai sono diventati la maggioranza in quelle regioni. Esattamente, noi non c'eravamo, ma così successe intorno al VI secolo. Arrivarono gli arabi islamici e imposero la loro volontà a un'area che era assolutamente completamente cristiana. Io mi rendo conto che per degli arabi che considerano il Corano, il verbo, il concetto stesso di democrazia, perché Israele è un paese democratico, sia difficile da assorbire, perché loro hanno una... Ma scusi, però per lei democrazia, è farsi sottomettere dagli ebrei? Perché no, quello che lei ha detto, a parte il fatto che... No, mi faccia dire una cosa, scusi, mi faccia dire una cosa. A parte il fatto che le analisi storiche sono bellissime e mi appassionano, però non so quanto ci aiutano poi a risolvere la situazione sul momento. Le do un esempio. Lei ha detto che è già successo in passato che una popolazione si sia dovuta sottomettere e adesso deve succedere di nuovo. E allora però questa cos'è? La premessa che poi fra 300 anni succeda di nuovo? Non mi sembra un bel auspicio. Le cose possono cambiare, cambiano gli equilibri democratici, certo. Possono cambiare mille cose, però è un fatto che gli arabi non possono più pretendere di imporre il loro modo di vedere le cose e di amministrare lo Stato nel momento in cui sono diventati una maggioranza, perché questo è quello che è successo. A un certo momento gli ebrei in Palestina sono diventati una maggioranza e ovviamente hanno cercato di applicare il loro modo di vedere l'esistenza, di concepire la gestione dello Stato. Guardi, se vogliamo, sa qual è la soluzione migliore? Sarebbe uno Stato di Israele nel quale vivono anche i palestinesi tranquillamente, come vivono gli arabi dentro lo Stato di Israele. Però per arrivare a questo ci vuole uno sforzo monumentale, olimpico, olimpionico di costruzione di una pace che adesso non c'è assolutamente. Grazie Federico. Andiamo con Marina da Palermo. Buonasera. Buonasera. Sì, prego. Sì, allora io pensavo che si trattasse di Julie Gayet per la persona che cercavate. Perché è molto vicina a un capo di Stato, lei è l'amante di Hollande, non so però perché in linea con la spending review, secondo lei, e soprattutto perché è appena diventata maggiorenne, questo è l'ultimo indizio che abbiamo dato. avevo sentito l'ultimo indizio. Sì, sì, sì. Allora ho sbagliato. Era questo, infatti non era lei. Allora aggiungiamo un altro piccolo indizio. Si tratta di un personaggio che non necessariamente è un personaggio, diciamo così, umano. E questo, diciamo, che dovrebbe aiutare. Appena compiuto 18 anni, vicina a un capo di Stato, in linea con la spending review, ma non necessariamente un personaggio umano, e continuiamo a giocare. E continuiamo invece adesso a parlare di un altro argomento. Vai. Ma bello far l'amore da Trieste in giù, Raffaella Carrà remixata, la colonna sonora tra l'altro della grande bellezza, la dedichiamo tutta a Fabrizio Cecchetti, vicepresidente del Consiglio regionale Lombardo. Buonasera. Lei avrà già capito perché. Sì, assolutamente sì, alto livello, Raffaella alto livello. Carrà. Vabbè, cerchiamo insomma di anche musicalmente di distinguerci. Cecchetti, lei ha fatto una proposta che personalmente mi trova d'accordissimo, anzi mi chiedo cosa aspettiamo a fare cose di questo genere, cioè la regione dovrebbe incentivare la distribuzione di preservativi davanti alle scuole e alle discoteche. Perché? Sì, più che altro perché siamo partiti da un dato anche scientifico, se vogliamo dire, l'aumento veramente preoccupante dei casi di HIV in regione Lombardia in particolar modo. Sì. Anche nel paese Italia la situazione non è assolutamente positiva, si parla di circa 23.000 italiani che in questo momento sono affetti dall'HIV, e solo in Lombardia il dato dice circa 6.000 persone, che aumentano ad ogni anno di circa 1.000 unità. Ecco, perché noi in Lombardia e a Milano in particolare è forte questo aumento. Cioè c'è un... Assolutamente, si parla del 56% solamente sul territorio tra Milano e provincia. Perché è un argomento questo che ci si dimentica spesso di ricordarlo, insomma. Non è una questione risolta quella dell'AIDS, assolutamente. Si trasmette attraverso anche l'attività sessuale. Quindi voi dite, facciamo qualcosa, non stiamo lì a guardare, non guardiamo solo le cifre, però ci sono delle resistenze anche all'interno del Consiglio regionale Lombardo. Lei ha fatto votare una mozione, credo che sia, 28 consiglieri l'hanno già votata, però ci sono delle resistenze? Sì, per ora stiamo parlando di firme, per ora la mozione poi sarà discussa a settembre. Qualcuno, esponenti del nuovo centrodestra piuttosto che Fratelli d'Italia, non hanno voluto sottoscrivere. Comunione e Liberazione è contraria a cose di questo genere, in Lombardia pesa molto. Sembrerebbe di sì, dopodiché davanti a dei dati che gridano vendetta, perché ribadisco 1.000 casi in più in Lombardia, soprattutto a Milano, per ogni anno io quantomeno mi preoccuperei. La regione Lombardia ha molti record positivi, rischiamo di avere anche questo record assolutamente negativo a livello europeo. Dopodiché l'idea è venuta viaggiando, Barcellona, Catalunya, questi lo fanno tranquillamente già da parecchi anni, regalano fuori dai locali, dove ovviamente i centri di aggregazione, soprattutto giovanili, preservativi con il timbro della Generalità di Catalunya, che sarebbe il Parlamento catalano. In questo caso noi parleremo del simbolo di Regione Lombardia. Ecco, davanti anche a questa richiesta qualcuno ha sollevato delle titubanze, come se affiancare il simbolo istituzionale di una regione potrebbe, ai preservativi, potrebbe creare poi non so quale tipo di resistenza. Non si sa, perché comunque non c'è niente di male, è un modo per fermare una malattia gravissima, ed è assolutamente doveroso fare una cosa del genere, cioè politiche pubbliche di prevenzione delle malattie. Io spero che questa cosa ce la faccia andare avanti, è a superare. Quanto pesano queste resistenze in Consiglio regionale di CL? Ma guardi, onestamente, voi siete alleati tra l'altro, no? Storicamente, sì, anche sì, se sì, con qualche... Poi, su questi temi poi ognuno chiaramente, secondo me, bisognerebbe usare il buon senso al di là dell'appartenenza politica e partitica. Dopodiché il fatto che sia stata sottoscritta da esponenti della Lega, di Forza Italia, del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e altri, lascia intendere che teoricamente la mozione dovrebbe passare, poi ovviamente qualcuno ha fatto resistenza, anche se dove andrete a trovare i soldi e ci sono altre priorità. Vabbè, ma dai, ma per distribuire quattro preservativi non credo che ci sia da stanziare grossissime cifre. Assolutamente, poi si parla della salute, della prevenzione e del futuro delle generazioni. Se riuscite a far passare il contributo di solidarietà ai percettori, quelli che percepiscono il vitalizio, gli ex consiglieri regionali, la proposta del di Cattaneo, già questo vi farebbe risparmiare tanti di quei soldi che voglia te a distribuire preservativi. Senta, il suo collega di partito, nonché anche assessore, Gianni Fava, qualche giorno fa, a proposito della cannabis, siccome oggi Umberto Veronesi rilancia questa questione, liberalizziamo, dice in una intervista all'Espresso, e il suo collega Fava ha fatto un tweet poi ritwittato da Maroni, che però poi ha smentito, insomma, dicendo è vero, basta ipocrisie, apriamo una discussione una benedetta volta su questo. Lei è d'accordo? Sì, guardi, assolutamente sì, bisogna andare oltre, bisogna parlarne quantomeno. C'è chi la vede come un problema, parliamone, cerchiamo di affrontare anche questa questione senza pregiudizi, senza blocchi di sorta iniziali, dopodiché vedremo. C'è chi dice utilizziamola per fini terapeutici o qualcosa di più, l'importante è parlarne da questo punto di vista, quindi chi fa politica non deve far finta che i problemi non esistano. Sì. Ma li deve affrontare senza troppi problemi, quindi assolutamente aperto a quanto detto dal mio collega Gianni Fava, ma che poi l'idea di tantissime persone che fanno politica e non fanno politica, ribadisco. Però è cambiata la Lega, perché qualche anno fa una cosa del genere credo che non sarebbe stata possibile, credo con Bossi segretario o cose di questo genere, no? Ma io credo che sia giusto che anche i movimenti politici, le idee cambino quando la società cambia, altrimenti rimani isolato, noi dobbiamo aprirci a tutti e di conseguenza. Bravo, sono d'accordo. Questione di buon senso. Va bene, grazie anche a Fabrizio Cecchetti. Buona serata e buona estate. Andiamo di nuovo con gli ascoltatori e con Daniela che ci chiama da Genova. Buonasera. Buonasera. Prego. Credo che gli indizi siano serviti a farmi capire che la risposta che volevo dare è sbagliata. Qual era la risposta che voleva dare intanto? Vabbè, no, aspetti, perché lei ha una risposta sola da dare. Quindi se nel frattempo ha cambiato idea, ci dica direttamente quella definitiva. Gli indizi sono quelli, l'ultimo è che può non appena compiuto 18 anni e in effetti non necessariamente, diciamo, è una persona umana questo personaggio della settimana, che è molto vicino a un capo di Stato. Siamo stati un po' cattivelli. Non le viene in mente nulla, Daniela? Non mi viene in mente nulla. Cosa voleva dire? Diciamo questo. Lascio stare. Ah no, io volevo dire, inizio volevo dire Michelle Obama, ah, perché aveva detto che le donne erano più intelligenti degli uomini. Che, infatti, diciamo, è vero, ci poteva stare, però non era lei, abbiamo fatto bene a dirlo, perché così togliamo una falsa risposta anche ad altri ascoltatori, quindi non era neanche Michelle Obama. Io non lo so, stavolta siamo stati cattivelli, la risposta è gustosa, la risposta finale, però prima di arrivarci... vogliamo dare un altro indizio? Lo diamo? Però poi va bene, è tedesca, 18 anni, tedesca, vicina a un capo di Stato. Se cercate, a questo punto, secondo me qualcosa trovate. 800 24 00 24. Andiamo con Salvatore, che ci chiama dalla provincia di Ancona. Pronto, buonasera. Buonasera. Senti, io sono sotto shock, adesso lo spiego perché. Io sono un docente dei famosi 4.000 della quota 96, no? Ah, ovviamente, sì. Adesso spiego. Cioè lei ha avuto il miraggio di poter andare in pensione e invece poi è sfumato. Mi hanno dato lo zuccherino, io mi trovavo in Francia, ho festeggiato con mia moglie, così all'ultimo momento ce l'ha tolto. Adesso io però non chiamavo per entrare nel merito proprio della questione. Volevo dire che all'ultimo momento, nonostante Boccia, la Ghizzoni, che ci hanno sempre sostenuto, erano riusciti a farlo approvare alla Camera, al Senato il governo l'ha stralciato, ma quello che a me non sta bene è la motivazione, perché dice noi non c'entriamo niente con la pubblica amministrazione. Pronto? Sì, la sentiamo. Quando nello stesso decreto la pubblica amministrazione hanno inserito il prepensionamento dei giornalisti in crisi. Quindi quello che voglio dire, io sono 30 mesi che lottiamo per un errore tecnico riconosciuto dalla stessa Fornero. Non è che la Fornero dice voi volete, lei stessa ci ha mandato una mail al nostro comitato, abbiamo un blog, dove dice ho sbagliato, non è stata colpa mia, tutti i partiti sono d'accordo nel dire c'è stato un errore. Nel momento in cui arriviamo vicino alla meta, mai così vicini, tutto scompare. Siamo persone di 62 anni minimo, io le faccio 62 con 40, insomma rimaniamo sconcertati da questa politica dove non c'è più un diritto, nonostante tutti ammettano che è uno sbaglio. I giornalisti, perché da quale categoria lei appartiene, lo sanno, tre giornalisti. Sì. Salvatore, le chiedo se mi fa sentire un attimo il preambolo di Mentana, titoli della 7, sentiamo. Nel territorio iracheno, raid aerei, bombardamenti sulle postazioni dell'ISIS, l'esercito dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante, quello che ha proclamato il califfato su parte del territorio della Siria e parte, quella nord, dell'Iraq. E contemporaneamente altri aerei americani hanno inviato, invece hanno paracadutato viveri per le popolazioni in fuga, quelle, come si sa, cristiane e islamico moderate, chiamiamole così per brevità. E a precisa domanda il portavoce della Casa Bianca ha detto che non c'è una data limite, una data di termine di queste operazioni americane. Del resto l'allarme si è fatto più forte sulla possibilità che... Va bene, tra poco sentiremo anche i titoli. Salvatore, a me personalmente dispiace il fatto che persone come lei abbiano avuto, come dire, la possibilità di andare in pensione vista lì di fronte, poi è sfumata. Io non conosco la ratio di questo provvedimento, non riesco a entrare nel merito, però sicuramente è vero che c'è troppo spaesamento, troppe previsioni di leggi e di possibilità di andare in pensione, finestre che si aprono, si chiudono in una maniera che è sbagliata. È successo adesso, è successo altre volte anche in passato, spero non succeda più e che si proceda con chiarezza, perché quello che è brutto è proprio questo, cioè la possibilità, l'aspettativa mancata, frustrata. Salvatore, se vuole concludere. Quelli che devono entrare al nostro posto sono 4.000 giovani entusiasti e si vedono nuovamente bloccati, nonostante tutti ci dicono, questo è, se Renzi ha detto, concludo dicendo, la scuola al centro, questo era un segnale che doveva dare. Va bene. Arrivederci. Grazie, buona serata. Pietro da Bologna, buonasera. Buonasera. Ecco. Io volevo intervenire sull'aspetto dei conflitti che ci sono nel territorio del Medio Oriente. La questione è che Israele sul fatto anche che comparso quella scritta Israele come stato terrorista, per me è vero, in quanto tutti gli stati, cioè l'Italia compreso, applicano o hanno applicato il terrorismo, l'imperialismo, tutte quelle forme che sono per conquistare territori o risorse, zone di influenza. Quindi, sì. Quindi la questione è che gli Stati Uniti in Iraq hanno inventato false prove per buttare giù Saddam, quando prima l'avevano utilizzato contro gli Ayatollah. L'Arabia Saudita, che alleato degli Stati Uniti, con i loro sceicchi sanguinari, finanzia Al-Qaeda. Nessuno ha le carte in regola per dirsi veramente pacifista e per chiedere forse la pace da nessuno. Questo è vero. Questo purtroppo è vero. Nel diritto internazionale, nelle relazioni tra stati, vale ancora sicuramente la legge più forte, nonostante l'ONU e tutti i tentativi. Sentiamo i titoli della 7, va? Sono cominciati nel nord dell'Iraq i bombardamenti, raid aerei americani contro le postazioni dei miliziani dell'ISIS, colpita l'artiglieria utilizzata contro le forze curde che difendono la città di Erbil nel Kurdistan iracheno. Dopo il via libera di ieri sera, Obama dice non ci faremo trascinare in un'altra guerra, vogliamo solo evitare un genocidio. La Casa Bianca fa sapere che si tratta di raid limitati negli obiettivi, ma non nel tempo, lanciati dal cielo anche aiuti umanitari ai civili in fuga. La Francia pronta a unirsi alle operazioni. Dopo due settimane di battaglia in aula, la riforma costituzionale del Senato ottiene il primo via libera con 183 sì e 4 astenuti. Non partecipano al voto il Movimento 5 Stelle, la Lega, SEL, i dissidenti del PD e quelli di Forza Italia. Esulta via Twitter Renzi, nessuno fermerà il cambiamento. Prossimo round a settembre, quando il disegno di legge Boschi arriverà all'esame della Camera. Ma il primo passaggio parlamentare della riforma non è solo un successo del governo, ma dell'asse tra il Premier e Berlusconi, sancito dal patto del Nazareno. E Berlusconi torna così con prepotenza sulla scena politica, con una lettera ai suoi parlamentari in cui parla di Forza Italia come unica forza responsabile e credibile tornata a essere protagonista. Pensa a un proprio futuro? Firmato l'accordo tra l'Italia e Etihad, la compagnia degli Emirati avrà il 49% per un investimento complessivo di 1.758 milioni. Quello che sarà il leader, il capo operativo, James Hogan, dichiara gli obiettivi. Abbiamo un piano triennale per far tornare all'Italia la redditività nel 2017, un investimento forte e strategico, ma ci saranno decisioni difficili da prendere. L'Italia sa ancora attrarre capitali, dice il rappresentante del governo. Lupi. Riprendiamo con gli interventi 800 24 00 24. Intanto aggiungiamo una cosa, va, per quanto riguarda il personaggio della settimana siamo stati un po' cattivelli in effetti, perché oltre ad essere vicino a un capo di Stato in linea con la spending review è appena diventata maggiorenne, quindi 18 anni, non è necessariamente un personaggio umano, diciamo che in effetti non è per niente un personaggio umano, aggiungo questa cosa qua, trattasi di un oggetto inanimato che ha compiuto da poco 18 anni e che è molto vicino a un capo di Stato. E ho detto anche che è tedesco a un certo punto, mi pare, sì. Beh ragazzi, più di così se non indovinate non ve lo meritate i biglietti per la mostra di Andy Warhol a Roma. Riprendiamo allora con gli interventi degli ascoltatori. Andiamo ad Udine, da dove ci chiama Claudio. Buonasera. Buonasera. Prego. Niente, volevo dare una campana anche in favore dei poveri palestinesi, no? Ora, chiaramente sono contro la guerra di tutti i tipi, non mi interessa essere chiaramente di parte da una parte o dall'altra, però bisogna fare una piccola puntualizzazione. Dico solo questo, perché poi le notizie ognuno le prende in qualsiasi maniera, vengono date dal giornale in una maniera, dalla televisione in un'altra, no? Andiamo a vedere la realtà. Dal 48, io chiedo a tutti i telespettatori di andare a vedere la cartina del 48, quando è stato insediato lo Stato di Israele, e la cartina di adesso, e vi renderete conto che gli israeliani si sono presi praticamente 10 volte il territorio che era stato assegnato nel 48, tutto con la forza e con i coloni, no? Che man mano si mangiano il terreno. Hanno praticamente bloccato questi poveri palestinesi in una striscia di Gaza, no? E nella Cisgiordania, che è ancora più piccola. Questa striscia di Gaza praticamente è sotto tiro dei cecchini israeliani ed è da una parte. Da una parte c'è il mare. Loro non possono neanche andare a pescare, e questo lo sanno tutti, perché se vanno a pescare li tirano giù con le motovedette. Allora voi dovete dire a queste persone qua che sono bloccate da tutte le parti, non riescono neanche a muoversi, c'è non so quante milioni di persone sono in un pochissimo terreno, dopo chiaramente non discuto che c'è il terrorismo, tutto quello che si vuole, ma come si fa a pretendere che non nasca il terrorismo in queste condizioni? Fra l'altro, per quanto riguarda il discorso ONU, ci saranno risoluzioni contro i palestinesi, ma quante ce ne sono risoluzioni contro gli israeliani che gli israeliani se ne strabattano altamente? Quindi non parliamo delle risoluzioni dell'ONU, che l'ONU in questo caso non conta niente. È vero o non è vero questo quello che dico io? Claudio ha detto tante cose, ha detto più che commentarle io preferisco a questo punto rilanciare la palla agli ascoltatori e sentire Silvio che chiama da Verona. Buonasera. Buonasera signora. Ascolta, anche io volevo parlare del problema di Gaza, perché sì, ho visto che gli israeliani, secondo me, non vedono la realtà, secondo me, sì, perché sono cercati proprio, perché si vede una realtà, ma devono guardare indietro proprio dalla loro pelle, sì, perché adesso più che cercano di massare tutti i palestinesi saranno più grandi. Va bene, Silvio, va bene, non sentiamo neanche molto bene la telefonata. C'è un ritorno. Andiamo con Mario da Modena. Buonasera. Sì, buonasera. Prego. E io invece l'intervento lo facevo sulla questione preservativi di cui avete parlato poco fa. Siccome il Cecchetti, mi pare si chiamasse, adesso non conosco la persona, era partito dicendo c'è un dato scientifico. Ecco, il dato scientifico ci dice, e questa cosa viene detta troppo poco e bisognerebbe essere un po' più informati prima di dare certi tipi di notizie, come se il preservativo fosse la salvezza, la panacea di questo male, che il cosiddetto condom, il preservativo, che sì, è fatto di lattice, sì, ha a livello molecolare una struttura, perché niente è completamente compatto e completamente solido, no? Che ha dei fori, tanto per capirci, a livello microscopico indubbiamente, ma che sono più grandi dello stesso virus dell'HIV, cioè vuol dire fermare l'acqua con... No, scusi, ma lei questa cosa dove l'ha letta? Guarda, questa è una ricerca di un istituto svizzero, lo può ritrovare, adesso mi scuserà perché io sono in giro, non ho mentalmente i nomi di tutte le associazioni, eccetera. Mi no, no, no, ho capito, però lei ci sta dicendo una cosa talmente importante, no, no, per non dire una notizia bomba, che il preservativo Non è una notizia bomba. Cos'è? Allora... E capiamoci, non sto dicendo che il rapporto c'è anche un rapporto, mi pare che ci fosse scritto anche questo rapporto di dimensione, non sto dicendo che è effettivamente come tirare sull'acqua con colabrodo, perché comunque no, ecco, non diciamolo perché sì, attenzione, una barriera la crea sempre e la crea. Vabbè, Mario, però tutto. Se lei non ha le fonti di questa notizia non può essere più preciso, no, cosa dobbiamo fare? Allora, sì. Dobbiamo fare che chi ha voglia di interessarsi di questa cosa, lei compresa che è un bravo giornalista, sì, fa una piccola ricerca. Faccia così, la faccia lei la ricerca e ci mandi una mail con il link di questa cosa e poi ne parliamo. Grazie Mario, buona serata, grazie. Buona serata. Michele dalla provincia di Roma ancora. Buonasera. Prego. Volevo rispondere al quiz. Sì. Se era possibile. Certo. Io penso che sia il campionato del mondo di 18 anni fa che l'Italia ha vinto in Germania. Momento, l'Italia ha vinto in Germania nel 2006, non 18 anni fa. Ah, è vero, non nel 96, è vero, comunque pensavo alla Coppa del Mondo. Ho capito, lei si è fatto prendere un attimo la mano dall'entusiasmo dei mondiali, non è questo. Grazie Michele, buona serata. State con noi perché adesso stiamo per darvi invece un buon consiglio per le vostre vacanze. Andare in vacanza spendendo poco o anche niente grazie al fatto di scrivere delle recensioni dei luoghi delle vacanze. Ora, detta così è detta male, i giornali hanno scritto vacanze gratis, conquistatela con una review, un progetto, si chiama Frippi, ne parliamo con Benedetta Borri, project manager proprio di Frippi. Buonasera. Buonasera, salve, buonasera a tutti. Allora, trattasi di un sito internet, un portale, un social network, anche se vogliamo, esatto, nel quale che cosa si può fare? È un social network turistico che sì, sostanzialmente permette agli utenti social veramente, ci piace dire, sì, di viaggiare gratis, semplicemente remunerandoli per il valore che apportano al mercato. Ovvero condividendo le proprie esperienze di viaggio tramite un profilo nominativo, quindi un nome e un cognome, sì, utilizzando il sito e l'app di Frippi, gli utenti guadagnano dei punti attraverso i quali prenotano offerte gratuite che sono caricate sulla piattaforma. Cioè lei mi sta questo dicendo che, anzi diamoci del tu, Benedetta, mi stai dicendo, certo, che quando io scrivo una recensione sui noti siti tipo TripAdvisor o altri che ci sono, sto facendo una cosa che ha un valore e che voi valorizzate al punto di consentirmi poi di prenotare una vacanza gratis. Ora ci saranno delle proporzioni fra tutto questo, nel senso che non è che... Certo, c'è una ragione di fondo e c'è una modalità, sì, secondo la quale è possibile. L'idea comunque di fondo è proprio questa, cioè è garantire la possibilità a un utente che comunque apporta un valore al mercato in quanto sul suo giudizio poi si basano, sì, le decisioni di acquisto di moltissimi altri viaggiatori, andando proprio a remunerare per questo valore che apporta. Ma io posso posso fare la recensione, che ne so, di un albergo a Milano e poi prenotare la vacanza a Cefalù, oppure deve essere tutto? Assolutamente, l'utente acquista dei punti, sì, proprio a attraverso quelle che sono le sue recensioni che fa attraverso il sito, ma soprattutto attraverso una nuova applicazione che noi abbiamo appunto creato, che è una diciamo un'applicazione che permette la creazione di una Insta Review, noi la chiamiamo, ovvero una recensione istantanea. Sì. Geolocalizzata nel luogo in cui ti trovi, sì, con profilo nominativo e dunque assolutamente certificata. Si pone fine a quello che è l'anonimato delle recensioni. Sì, ma la recensione, però, questo che è un punto abbastanza spinoso, deve essere per forza positiva e quindi, oppure no, no, può essere libera. Ce ne posso dire anche. Lo scopo di Frippi è proprio quello di riuscire a portare il cliente e a collegarlo con l'operatore. Ovviamente la tipologia di recensione dipenderà dal servizio offerto, ma in che modo, e questo è molto importante perché è un po' la base sulla quale appunto si è costruito il concetto di Frippi, com'è possibile trovare offerte sulla piattaforma e perché gli operatori come ristoranti o hotel dovrebbero ospitare appunto un utente in cambio, diciamo senza, è un utente non pagante in questo senso. Semplicemente per il fatto che le offerte che troviamo sulla piattaforma non sono altro che gli spazi invenduti di hotel, ristoranti e in un futuro servizi turistici, che quindi vengono messi a disposizione gratuitamente di utenti social, in questo caso qualificati, che quindi hanno accumulato una serie di punti, quindi si sa già che sono appunto utenti che amano scrivere e raccontarsi, in cambio di questa recensione istantanea in tempo reale che viene condivisa sul social network di riferimento dell'utente. E quindi vista da tutta la sua community. Cosa accade come beneficio per gli operatori? Che uno spazio che per loro era invenduto, quindi inutilizzato, per il quale avevano già sostenuto la maggior parte dei costi, viene così rigenerato in visibilità social praticamente a costo zero. Quindi è un investimento in marketing a costo zero. Quindi voi partite, diciamo, per quanto riguarda l'organizzazione di questo servizio, dalle camere invendute, le mettete a disposizione, in cambio gli albergatori, insomma i gestori, hanno questa visibilità e la possibilità di entrare in questi canali social e di lì si tira fuori, diciamo, il premio per l'utente che fa la recensione. Ma, sono gli hotel e sono i ristoranti stessi a applicarli attraverso una specie di appunto back office di extranet che noi diamo a disposizione agli hotel e certo, ai ristoranti. Beh, insomma, sono loro a decidere quando e come, sulla base appunto della loro necessità e degli spazi invenduti che per loro rappresentano una produzione perduta che desiderano rigenerare. Beh, da quanto tempo siete partiti con questa iniziativa? Dunque, l'idea è nata nel 2012 da appunto un imprenditore fiorentino che da anni lavorava nel settore del turismo ed è stata poi sviluppata nel corso di questi due anni da un team di ragazzi assolutamente giovani e motivatissimi. Abbiamo lanciato la versione beta, quindi una versione diciamo di test, si può dire, nel novembre del 2013, quindi pochi mesi fa, negli Stati Uniti a una conferenza internazionale alla quale ci hanno chiamato a presentare come innovatori. E poi nel mese di maggio, quindi circa ormai tre mesi fa, abbiamo lanciato qui in Italia una versione ufficiale. E qual è il nome del sito? www.frippi.com. Perfetto. Al momento abbiamo circa 6.000 utenti iscritti, quindi siamo appunto nel primo stadio. Abbiamo circa 300 e passa strutture che quindi in totale fanno migliaia di offerte gratuite disponibili per il momento su una zona limitata che è quella della Toscana e poi verrà pian pianino estesa, come sta accadendo, alle principali città italiane. Va bene, insomma, come tutte le idee innovative e apparentemente anche, si può dire, miracolose, ha bisogno di tempo per affermarsi. Non tutte magari ce la fanno queste start-up, una su mille si potrebbe dire, parafrasando o riprendendo le parole della canzone Ce la fa. Io vi auguro che ce la facciate perché è una bella idea, una bella soluzione, è un consiglio anche per andare in vacanza. Intanto ci sono già 6.000 utenti, 300 strutture. Cari ascoltatori, andate, Frippi, vedete se c'è qualcosa che vi stuzzica, entrate nel social. Grazie. Buona estate. Grazie. Buona serata a Benedetta Borri. Questa era Frippi, adesso il traffico. Si può fare, si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua, 800 24 00 24, andiamo con Alessio che ci chiama dalla provincia di Vicenza, buonasera. Buonasera. Prego. volevo dare la soluzione al quiz, sperando che sia giusta. Sì? Sì, è la tunica della, della signora Merkel. Bravo Alessio. Lei è il primo che si è svegliato qui dal torpore agostano degli ascoltatori, ci ha voluto praticamente di dire, quasi parafrasando la, la notizia, perché la notizia della tunica della Merkel qual è? Ce la dica lei, visto che ha vinto. Che dura da 18 anni e continua a indossarla nelle grandi occasioni praticamente. Sì, esatto, lei è molto affezionata a questa tunica colorata, diciamo a colore rosso, blu eccetera. È stata fotografata in diverse occasioni, la prima volta 18 anni fa, e quindi perché abbiamo detto vicino a un capo di Stato? È ovvio, perché la Merkel è un capo di Stato. In linea con la spending review, perché questa signora evidentemente non rinnova così tanto spesso il suo guardaroba, riutilizza, quindi risparmia anche su, sull'abbigliamento, che è una cosa che bisognerebbe fare tutti, e poi il resto insomma viene da sé. Alessio, grazie, ha vinto, complimenti, i biglietti per la mostra di Andy Warhol a Roma, lei da Vicenza magari se fa un giro a Roma ci vada, e così abbiamo assegnato il premio anche questa sera. Paolo da Padova, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Prego. Senta, io ho chiamato quando ho sentito l'intervento del sindaco di Livorno. Sì. In quanto io sono un livornese, ma non vivo più nella città, vivo nel Veneto. Sì. E come credenziali io promuovo i prodotti italiani all'estero. Va bene, quindi siccome lo faccio nel nord Europa. E va come lavoro? Funziona? Il marchio Italia funziona? Ma va benissimo. Benissimo. Anche la mia azienda va benissimo. Ma ovviamente bene, con i prodotti si vende l'immagine personale dell'azienda e dei colleghi, e quindi dell'Italia, insomma. Si vende il vino, si vende il cibo, la cultura, le vacanze, tutto. Vende nel senso di si promuove, sì, ovviamente. Quando però ho sentito l'intervento del sindaco della mia città natale, devo dire che sono rimasto veramente molto male. Ma per cosa, scusi? Ci dica. Perché c'è ci sono due aspetti. Uno è il suo modo di vedere le cose in maniera ideologica, che speravo avessimo abbandonato questo modo di interpretare la realtà. E poi appunto il distacco dalla realtà, cioè uno che confonde i rapitori di donne e bambini che ne fanno scudo con quelli che cercano di prendere i rapinatori, diciamo. Quindi confondere Hamas con Israele e dire che sono che gli israeliani sono i terroristi è veramente distacco dalla realtà. Però mi scusi, cioè, non è che qui dobbiamo pensare a tutti nello stesso modo. Loro la pensa, lui la pensa così. Quello che secondo me non va molto, ho cercato di fargli delle domande su questo, è che come dire, in un momento in cui c'è la guerra lì, che noi qua che stiamo belli tranquilli ci mettiamo a discutere, ognuno dice la sua, io metto la bandiera, io metto uno striscione, poi chiediamo a loro di fare la pace, no, questo non ha senso, non è coerente. Come questo, il capo di Hamas che vive in Qatar. Questo è il problema. Poi che il sindaco di Livorno pensi che Israele è terrorista e non sia Hamas terrorista, non lo so, questo ci può stare a discutere per giorni, da questo punto di vista non c'è una verità netta. Allora, è vero che ci sono responsabilità da ogni parte, però io lavorando con i paesi del nord Europa ho imparato a essere pratico e pragmatico, o meglio, bisogna vedere la realtà, bisogna riuscire a distinguere quali sono le forze in gioco, le motivazioni in gioco, le storie in gioco, che cosa è causa e che cosa è effetto. E io noto tristemente ancora che ci sono delle persone, vuoi per motivi ideologici, di convenienza o semplicemente per il loro modo di leggere la realtà, che secondo me confondono gravemente poi dovendo fare il sindaco della città, spero che lui faccia bene, ma sì, soprattutto quello, perché questa è un'altra cosa curiosa, no? Che i sindaci, i consigli comunali siano chiamati a votare mozioni sulla guerra in Israele, è una cosa che non serve, io credo, assolutamente a niente, a nessuno, se non a far discutere le persone ore e ore, a dividersi, a pubblicare articoli sui giornali, tutta roba che non serve a nulla concretamente, cioè che il comune si occupi di far funzionare il comune, questa è come la vedo io. Poi, dopodiché, poi naturalmente ognuno invece la vede come gli pare. Giuseppe da Milano, buonasera. Buonasera, volevo intervenire anche io sul discorso Gaza. Mi ha colpito l'immagine dell'ascoltatore di prima che ha detto: se io ti ho un calcio nel ticket Dyson, quello mi mena, sto pure bene. Che mi ha colpito, mi ha fatto anche ridere, se vogliamo, come pur non essendo completamente, in disaccordo con questo. Sì. Vorrei lanciare anch'io allora un'altra immagine che prescinde dal discorso di chi ha ragione e chi ha torto. Se uno mi minaccia con un temperino, io in Italia, come nel mondo occidentale, non gli posso sparare. Se uno mi tampona la macchina, io non gli posso bombardare la casa. E questo è quello di cui qui si sta parlando. Quindi Hamas lancia dei razzi per mese che non hanno ancora fatto praticamente vittime. Beh, sì, ho capito quello che lei dice, ho capito. Quindi, sono con lei quando... Prescindendo dal discorso di chi ha ragione e chi ha torto, che è un discorso molto difficile, però la sproporzione tra le due cose è quella che balza all'occhio. Quindi se uno mette un sasso, io non è che gli passo su col carro armato. Questo è storicamente per me il punto fondamentale. Però ecco, questa cosa del tirare il sasso, attenzione, perché non è che Hamas tira i sassi, Hamas tira i razzi. Poi Israele è uno stato che ha una difesa militare avanzatissima e con la contraerea annulla qualunque, saranno razzi, non sono razzi nucleari sicuramente, non saranno in grado di radere al suolo in un colpo solo una città, ma sono razzi che possono uccidere e uccidono, quindi non sono proprio sassi. È vero che c'è una sproporzione soprattutto di vittime, è vero che ci sono due eserciti che si fronteggiano completamente diversi, però non è che Hamas tira i sassi. Quello che ha detto lei diciamo potrebbe far pensare questo, ma non è proprio così, insomma. Poi sono d'accordo con lei su quello che diceva l'ascoltatore, che ha paragonato sostanzialmente Israele a Mike Tyson, dicendo: Israele e Mike Tyson, i palestinesi sono uno che lo va a provocare e si pigliano i cazzotti in faccia. Va bene, io non vado a provocare Mike Tyson, quindi i palestinesi non dovrebbero diciamo suicidarsi andando ad attaccare Israele. Però anche paragonare Israele a Mike Tyson non è esattamente un complimento per quanto riguarda Israele. Credo che invece l'ascoltatore di questo fosse inconsapevole. Dove andiamo? Ho fatto un discorso un po'... mi sono perso anch'io. Andrea da Trento, buonasera. Buonasera. Prego. Io volevo intervenire sulle start-up. Sì. Specificando che non solo una su mille ce la fa, per fortuna. Perché... ci sono delle grandi start-up anche in Italia, nonostante le difficoltà in cui ci troviamo ad operare, sì, che vincono anche contesti europei. Beh, non sarà uno su mille, ma quanto sarà? Uno su cento? Io di start-up ne ho sentite a migliaia, concorsi per le start-up, incubatori di start-up, annunci. Se fossero tutte andate in porto, non avremmo la disoccupazione al 12%. Ecco, questo è vero. Però è stato piccolo, la nostra società, che è una società familiare, Galtiaria familiare, ha fatto partire tre start-up. Bene. Che oggi impiegano 50 persone. Molto bene. In che campo? Completamente diversi uno dall'altro. Una nel wifi a navigazione gratuita, uno nella fisioterapia controllata da sensori e giochi, chiamiamoli così, e uno nel calcolo del peso versione dinamica, quindi misuriamo il peso dei veicoli mentre circolano sulla strada. Complimenti Andrea, grazie, buona serata. Lino da Catanzaro, prego. Pronto? Prego Lino, tocca a lei. Buonasera, grazie. Io volevo fare due semplicissime, spero brevissime, considerazioni. La prima è quella che, da quello che almeno ho letto, ho sentito, già l'America sta ribombardando l'Iraq, eccetera. E io mi spiego, mi chiedo una cosa, come mai in Iraq, che voglio dire, lì sono tipo completamente disarmati, non hanno nulla, l'America bombarda e il mondo non dice niente, e una fievolissima voce da parte del Papa dicendo che sull'Iraq eccetera, quando invece in Israele, perché non bombardare in Israele? Servirebbe... Cioè la regola è che l'America bombardi Israele, non ho capito. Mi scusi. No, no, le ho chiesto questo perché non abbiamo capito. È stato semplice, cioè, come mai l'America e quindi la NATO, tutto quanto il resto, il mondo intero, in Iraq non dice nulla, hanno ribombardato nuovamente. Vabbè, perché là c'è il petrolio, chiaramente hanno paura di perdere il petrolio. In Israele invece non succede nulla, nessun dovrebbero bombardare allo stesso modo. Prima, anche perché, pronto? Ma chi dovrebbe bombardare cosa in Israele? Certamente io non posso andare stasera a bombardare. No, ho capito, ma lei... Se fosse io sarei già andato. Io glielo richiedo, lei cosa... Lino... Con la bomba atomica avrebbero risolto tutto. Ma cosa? Avrebbero risolto cosa? Avrebbero risolto il conflitto. Certo, con una bomba atomica radendo al suolo tutto avrebbero risolto. Ma cosa sta dicendo, Lino? Perché la guerra mondiale, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale com'è finita? Giocando a carte? Sì. Non voglio sapere se gli italiani comprendono questo, se la seconda guerra mondiale è finita giocando a carte o democraticamente con un'elezione. No, ma munizione. È anche iniziata a suon di bombe, ha capito? Quindi non è un buon auspicio quello di andare in un posto e bombardare con la bomba atomica. Lino, buona serata, grazie, buona serata a tutti. È l'ora di chiudere e di salutare, ci risentiamo lunedì prossimo naturalmente 18:20:30 con Si può fare, grazie a Lorenzo Nespoli, Camilla Tomadini, Lucia Tolve in redazione, Fabio Cantadori in regia. Allora l'appuntamento è a lunedì, ciao a tutti, buon weekend, buona estate, un saluto da Alessio Maurizi, ciao.